un'altra cosa, quello lì era. Ma ti dico una cosa, poche uova che hanno fatto, non lo usano. Ma quali intendi tu? L'ultimo che hanno fatto, che hanno scavato lì, che hanno recintato. Dove c'è l'ingresso, dove c'è anche adesso la stazione dei Vigili del Fuoco? No, quella, l'altra, quella di dentro, dentro al porto vecchio, il vecchio, il primo. Ah, sì, dove c'è la telefonica, si chiama quella lì. Quello lì è adibito quando certe volte sono arrivavano le navi, cioè alcune navi da crociera o qualche cosa del genere, allora la aprivano. Capito? Stiamo trattando qualche volta, forse hanno alloggiato provvisoriamente i rimorchiatori, ma niente di che. Ecco, abbiamo fatto un porto buono e non lo usano più. Buonasera. Oh, ciao già. Buonasera a tutti, dai. Doppio rumore. Ciao Gianni, buonasera. Franco, ciao anche a te Gianluca. Non so se ci sia qualche dura, comunque sono tutti cordialmente, dai. Avanti Luca. No, c'era Luca di Sassari, del Monte, che è nativo in bianco, diciamo, dentro il Rix. E beh, già, tutto bene, la tecnologia è andata? È andata, un po' stanchino sono, già sono soddisfatto, dai, ho finito tutto quello che dovevo fare e via. E quello, guarda, vuol dire tanto, quando uno sa di aver fatto più cose possibili, almeno per me è così lo stesso. A me lo stesso mi piace quando mi accorgo che durante la giornata ho fatto abbastanza, magari, ma senza poter dire oggi ho fatto di più di quanto dovevo, no. Questo non lo dico mai, non bisogna mai dire, anche domani forse che mi fai di più o di manco, allora dopo si sottovalutano, si contraccambiano i pensieri, invece no, bisogna dire che oggi è andata bene, sono soddisfatto, domani spero che sia meglio. Pagato. E poi c'è la compensazione. La pista c'è la giallo, ma dove l'hanno fatto questa casa ormai vigile del fuoco? Non ho ancora capito. E quel caseggiato grande che vedi marrone, nuovo, dove c'è lo scalo a Ponente si chiama, dove generalmente attracca la Tirrenia lì, subito dopo la finanza, vai per andare alla Marinella, prima di metterti sul ponte c'è lo svincolo, lo scivolo lì a destra, no? E vai giù. Ah, ho capito. Molo di Ponente. Molo di Ponente poi lì si chiama. Pagappa. E lì cosa c'è? Ci sono i sommotrattori, ci sono quelli che vanno in mare, dai, basta. No, ci sono tutti i tipi di macchinari, ci sono lì. Ci sono le autobutti, ci sono le addizioni delle macchine, le cose, oggi c'era anche l'esercitazione perché c'era il ministro che si è dedicato a giustizia, sta venendo, non mi ricordo come si chiama. Hanno fatto un paio di esercitazioni con gli elicotteri, simulando dei soccorsi, no, di infortunati col venicello, varava rugoso. Bello era. Due elicotteri c'era. Beh, sarebbe stato bello da vedere. A me piacciono molto queste cose. Avanti capo. Capo, che non l'ho fatto Gianluca? Allora io siccome non mi trovavo lì, ero dall'altra parte, però già si vedeva tutto, abbiamo visto in lontananza, lui dovrebbe essere iniziato intorno alle 10:30, a mezzogiorno era già tutto finito perché mi sembra che doveva andare verso Nuoro, doveva andare a fare un'altra cosettina lì, e allora c'è stata praticamente l'inaugurazione, anche se la caserma era già operativa, no? L'hanno tutta risistemata, tutta fatta bene, c'è stato il taglio del fiocco, no? E nient'altro, tutto lì c'era un po' di movimento di forza dell'ordine, giustamente. Capo, no, e allora a mezzogiorno non c'era niente, perché a mezzogiorno sono uscito io e non c'era niente, non ho fatto niente, ero lì di vicino proprio, non ho notato. E stamattina sono andato a lavorare per un rientro, dai, noi ci abbiamo 2-3 rientri al mese, ci abbiamo, dipende dalle giornate del mese, ci abbiamo i rientri, ci abbiamo per recuperare le giornate. E però a mezzogiorno ero lì e non ho visto niente. volando la zona, ma non ci ho pensato che fosse quello. Perché sono uscito il furgone, quindi li ho visti, erano proprio vicini del fuoco, li ho visti proprio all'altezza dove c'è là il comlì. Capo, ho capito. Da dove sei tu, quando esci da lì già li vedi, è diverso da dove sono io sono più lontano, molto più lontano. Sicuramente stavano avvicinandosi alla zona e quindi sono passati lì. Ma anche dei carabinieri molte volte li vedo. Una volta avevano atterrato anche in via delle vigne. Sarebbe stato bello a vederlo, Io domenica mi sono visto la Befana dei pompieri. Era una cosa bellina in piazza. Hanno messo le corde, si sono calati dalla provincia, un pompiere vestito da Befana, poi c'erano delle gare di agility per i bambini, li vestivano da vigile del fuoco, con la pettorina con la scritta vigile del fuoco e il casco. E li facevano scendere da un tubo, che sarà stato un metro, salivano sulla scala, poi scendevano da un tubo, poi dovevano passare dentro questo tubo di grosso, dovevano passare strisciando dentro, poi passare su una scala, insomma era una cosa di agili. Ti dà. Caspita, lì è la provincia del Capo d'Italia. Non lo sapevo, E alla Befana tutti gli anni lo fanno, non lo sai. Alla Befana tutti gli anni fanno questa cosa, in più c'erano tutte le moto d'epoca, a me a Gianluca sarebbe piaciuto. Senti, già lui c'erano i Go-Go, Fantic Motor, poi ne è venuto uno da Nuoro con un Guzzi di quelli che ha il volano tipo macinino, in più le marce a mano. Sì, guarda che io Gianni, allora, anni addietro, quando eravamo col club delle veste, ci hanno invitato i club di Sassari, appunto le moto d'epoca, eravamo portate tutte in visione, c'erano anche i stand militari dove facevano vedere anche radio antiche, trasmittenti, d'epoca, tutti i dosi verani, ma vedi bello. Infatti noi avremmo dovuto fare lì la rappresentazione per la 27, però diciamo che i tempi erano troppo corti, non ce l'abbiamo fatta, ma già lo faremo in un'altra occasione. Sarebbe stata un'occasione buona perché c'era una marea di gente, ma un bel me. Infatti, in quel giorno lì era proprio, sarebbe stato proprio, guarda, la ciliegina sulla torta. Come già la presentazione della 27? E dobbiamo fare praticamente uno stand con tutti gli apparati per far conoscere alla gente che magari ancora ha interesse a entrare, tanto per stimolare un po' la gente a entrare nella 27, se naturalmente lo gradisce. Chi lo vuol fare, avremmo distribuito dei volantini con la stella della 27 eccetera eccetera, poi esposto un po' di apparecchi, magari messo un apparecchio in funzione per far vedere come funziona eccetera. Sì, ho capito, quella è un'iniziativa buona per ampliarla, sempre che ci sia gente che c'è gente che magari non la conosce nemmeno e magari le farebbe piacere fare conoscere un po' la storia eccetera eccetera, ma vediamo di farla più in là, solo che se ci fosse stata gente più seria si sarebbe potuta fare anche il giro della Befana, perché siamo andati l'appuntamento, tutti erano d'accordo e poi ci siamo presentati in tre, siamo arrivati lì come scemi. Purtroppo la gente non è seria, che deve fare? No, così no, Allora, se uno vorrebbe dall'appuntamento che deve farlo, o dice di no direttamente dall'inizio, oppure se dice di sì, bisogna farlo. Cioè, si deve presentare, cos'è questo tu? Vabbè. Non fare ben pochi, ma buoni, dai. L'interessante è che riesca la cosa. Si rimanda e basta, non è che non si faccia, già si fa lo stesso. Ecco. Sì, ma l'importante è farlo, però la gente non può, cioè una persona deve dare la parola, se dà la parola deve essere una parola, non deve essere una parola buttata al vento. Certo, ma purtroppo non è andata così, purtroppo si riteneva che venissero più persone, invece purtroppo è andata male. Perché si sarebbe trattato anche di contarsi di una piccola cifra per il solo pubblico, ma cifra tipo a livello di 5 euro così a testa, ma non cosa grossa, e di mettere a disponibilità qualche apparecchio per rappresentarlo, per far vedere un po' gli apparecchi come funzionano, eccetera, magari la gente chiede, sa, tante volte anche ragazzi, per dire, a me una volta al quadrato mi si è avvicinato un ragazzo e mi ha detto, scusi, ma lei dei carabinieri? Ho detto no, sono un CB, e che cosa vuol dire? E l'ho spiegato, ma no, davvero io non sapevo nemmeno che esistessero queste cose. Vedi, è una cosa bella, dice, perché io tante volte tra amici invece di fare una telefonata ti dà l'appuntamento a baracchi e non paghi manco una lira, per dire. Ecco, guarda già, se capita fammelo sapere, anche per mettere qualcosa per partecipare, là. Sì, sì, io guarda, io, Antonello Di Rossi e cose, eravamo già d'accordo per organizzarlo. Ci avevamo l'appoggio anche di Antonio Grode che ci dava il gazebo, il tavolino, visto che lui lo usa per lavoro e quindi ce l'ha, ci avrebbe dato anche il gruppo elettrogeno, insomma un po' di roba, qualcuno metteva le antenne per la trasmissione, intanto non è necessario che si faccia la trasmissione lontana, cosa, basta che si faccia vedere come funziona, basta che lo si metta con un portatile, l'altro c'è dalla parte e far vedere come funziona, come si parla, è quello lo scopo, di far vedere come ci si comporta, come si parla, capo, quello sì, quello basta anche una macchina dalla parte opposta e un apparato lì e basta, con un antennino, anche un antennino di macchina va bene per fare quel lavoro lì, non è che sia tanto. Se lo fai sapere, contribuire finanziariamente, poi se posso anche personalmente, guarda, io guarda, la parola mia, se posso venire personalmente vengo, però finanziariamente sicuro. Vabbè, ci servono anche le persone perché ci sarà, io penso che la gente chieda, voglia sapere, anche perché metteremo anche degli apparati un po' obsoleti di quelli tipo il Tokai eccetera eccetera, per far vedere anche come erano prima gli apparecchi, capito? Niente, diciamo l'intenzione c'era, però anche se qualcuno mi ha detto che è una cosa un po' inutile perché adesso ci sono i telefonini, l'iPhone e il computer, io gli ho risposto che prima di tutto c'è ragazzi se ne ridono, prima di tutto non sono solo ragazzi, gente c'è di tutta l'età che passeggia, che fa e cose. Quindi può darsi che ci sia anche qualche due pensione che gli interessa magari passare qualche ora all'apparato, oppure cosa ti posso dire, anche ragazzi, cosa non è detto, perché io uso il computer e uso anche l'apparecchio come tanti altri, quindi si possono avere tutte e due le passioni o no? Esatto, ma io ho pianto sul computer, cioè non è che non c'ho niente, non è che c'ho solo la lista trasmettere, c'ho il computer, quando non trovo gente qua mi distraggo lì, cioè un'ora, due ore, però il computer o l'iPod come dice la gente non è così, perché a parte che il computer è diverso da questa storia qua, perché questo è un'altra cosa, si parla direttamente, si parla anche se c'è, come si dice, i programmi che puoi parlare anche direttamente col computer, però non è come questo è tutto un altro divertimento diverso, perché questo fare con gente che non conosci, che non hai mai conosciuto e non conosce, magari non le conoscerai mai. Ma quello che ti dico io è che poi chi ha la passione le piace vedersi l'apparecchio davanti, è come quello che per dire la passione della musica. Al computer la musica si può ascoltare come voi, quando voi si sente anche bene. Però non è la stessa cosa di vedere lo stereo, specialmente quelli di una volta Marantz, Technics, eccetera, eccetera, vedere le strumentazioni con le freccette che si muovono, dei distorsori, è una cosa diversa. Gianni, ma guarda, quel tipo di discorso, no, di Marvel Bosa, ma perché lei non sa neanche dove sta parlando. Un conto è il telefono e un conto è la trasmissione, sono due cose totalmente diverse. Il telefono di cosa se ne fa, se ne va a baciare, non va retto, la cosa è tutto andato dalla trasmittente, dalla radio, penso a da Marconi, capisci? Tu mi dici così, non è andato un telefono, il telefono è andato un bel bel da voi. E vabbè, poi è tutta un'altra cosa. Questi apparecchi qui sono serviti per fare emergenza, antincendio, si sono usati anche nelle ambulanze il primo periodo, me lo ricordo. Diciamo che, dice, ma devi pensare quello che succede adesso, e non so, però io guardo anche quello che, a cui sono serviti e a cui possono servire, perché se noi avevamo anche l'intenzione di fare un'associazione a Sassari, un'associazione di CB, avremmo potuto fare tante cose, tipo manifestazioni, tutte queste cose qua, e lì entrano anche i soldi, perché io me lo ricordo, prima facevamo la cavalcata e altre manifestazioni, adesso la cavalcata l'hanno data al gruppo alpinisti, roba del genere. Sì, prima c'era almeno qualche incentivo, lo davano, ma va di sicuro, a questo punto devi pagare tu per fare determinate cose, la valle di Rale, i comuni non vanno di là, sono sempre fuori, sono sempre vicendo fuori, se devi darlo, danno un sacco di una tanca di magazzino, ma potete dire là, no, tutto non venduto, non si può fare nulla, non preso, non è autofinanziato? Come sapere una, io un'amica infermiera mi ha detto che è una vergogna che oggi non c'erano siringhe in ospedale, ci ho dovuto fare il giro di tutti i reparti per cercare le siringhe, no? Non c'erano siringhe per fare le terapie. Immaginati tu a che punto sei buvinente. Ma che poco devo mandare quella attrezzatura a lui? Sì, mi ha detto che c'è gente che sta comprando i farmaci anche, perché non le stanno fornendo la roba. Non è una cosa allucinante qua. Oh, fra poco, se ci serve un'iniezione o qualcosa, dobbiamo andare con la pianetta e il lago. Allora, non lo dico a Buffuenti, fra. Io una volta, e non ti parlo di adesso, ti parlo di 10 anni fa, a Porto Torres, ero in cella, e c'erano i salumi appesi, con quei ganci di macelleria, ce ne presenti. Me ne farà un ganzo e mi è entrato in capo. Quando il mio collega mi ha visto, mi ha buttato subito la boccetta ossigenata sopra, mi ha tappato col dito, subito mi ha fatto a pronto soccorso, mi ci passava il zampino. Mi porta a pronto soccorso, mi rasano la parte e mi ha detto, ascolti, noi non possiamo farle niente perché deve andare a comprare l'antitetanica che noi non ne abbiamo. L'antitetanica è lo spray che fa la pellicola per il buco, perché doveva mettere i punti e poi questo spray, non so che cosa, per i germi. Beh, non sai che è dovuto andare il mio collega, gli ho dato i soldi, è dovuto andare in farmacia a comprare questa roba, perché sennò non potevamo fare nulla. Quello, ti conveniva a cucinare tu stesso. No, sarei dovuto andare io con sangue a zampillo che mi usciva, cazzo, questo sangue no, proprio a zampillo usciva, questo mio collega mi ha messo il dito per tappare, prima pensava che stessi scartando, poi come cazzo ha visto il zampillo di sangue, cazzo, si è abbinato una murrai. E io ho fatto, io, cazzo, proprio lui cazzo attaccato proprio, mi è entrato proprio, niente, come dicevo, la tutta dentro, come me l'ha tolto, c'è proprio c'è un zampino che mi è uscito adesso. Ah, una cosa allucinante, da Fontanella poi. Tu pensa che se noi siamo in Italia siamo, la Grecia dice, in Grecia siamo, ma tu pensa che questa gente sta tagliando, ma noi vediamo non lo tagliamo. Fa finire che ci tagliano anche le gambe a noi. Ui. Non diciamo a niente a finire, non se ne capisce più nulla. Ti fa il matto la mattina alla sera, poi per dare la mangiare che si bagnacci, Gianluca, cosa le dici? Cosa ti dico io? Ti dico tutte le cose che hai detto che non fuoco. Qua se batti c'è qualcuno avere qualche rivolta di brutto proprio, una guerra civile. Berlusconi, lo sapete cosa ha promesso? Che chi assume a tempo indeterminato non paga le tasse. Ma guarda che Berlusconi, amore vuole tutto a Berlusconi, perché Berlusconi non è meglio dell'acrimi. Quando trovai con un capo d'imprenditore, se tu ti dici a te che ti ricava lì, ti ricava lì, ci ricava lì, ma tranquillo, da poco a poco, senza farti la bizzarra, senza farti la bizzarra, che lo vedo di un manno, è un difetto di un manno di un fulbo, capito, di un fulbo in generale, e pensa che gli altri sono matti, capito? Un fulbo pensa che gli altri sono matti, ma non è possibile, funziona così il mondo. Ti ricava lì, ci ricordo, cosa devo vedere, due sette mantenere là, una famiglia, insomma, o comunque sia, c'erano questi conti da fare. Benissimo, ma poco a poco da mettere 3-4 centesimi la benzina, da mettere lì, lì sono i farmaci, i ragazzi, gli adulti, ti vedi d'acro e tu, non ti rabbizzi, e non sei no, una volta che mi vedi lì, due volte che mi vedi. Gianluca, io non sono d'accordo nemmeno io per Berlusconi, te lo dico chiaramente, io ho detto ciò che ha detto, però non è che io sia d'accordo. Però c'è anche da contare che adesso ti paghi l'IMU e ti paghi anche gli aumenti della benzina, gli aumenti di tutto il resto. Quindi se una cosa si toglie, vabbè, ti regalo dalla base e ti la pone dall'altra, in un modo o nell'altro te la mette dietro sempre. Però c'è una cosa che avevo detto anche, che a posto di mettere l'IMU, a posto di mettere altro tipo di tasse, di aumentare i liquori e anche le sigarette, però non lo hanno fatto, anche aumentando i liquori e le sigarette sono basta fare. Mica sono matti. Adesso stanno togliendo questa sigaretta elettronica, no? Se tu vai su internet vedi che fa male, che questo, che l'altro. Perché? Perché i tabacchini stanno piangendo. A chi la gente compare di manco di sigarette. Sì, ma questa sigaretta elettronica cadono via da mano culo, scusate la frase, e cadono via da quella è la fregatura più grossa che hanno fatto, quella lì, perché io ho visto gente, ho colleghi che lavorano con me e si hanno comprato la sigaretta elettronica, ricordatemi, 2 ore di rendere una sigaretta elettronica, da poi si fumano mezzo pacchetto di sigarette, ma come si fumano a fare? No, allora no. Deve essere proprio un sostituto delle cose e poi devono smettere del tutto di non fumare né una né l'altra per essere regolari. Infatti, ma non succede, però, perché io ne ho 3 colleghi che hanno questa cosa qua e dopo un po' si fumano anche la sigaretta. Ma cosa stai secondo me? Mi sa cosa te la diventa a fare la sigaretta elettronica? L'ha fatta di 50 euro. Ma non ha detto per ammazzarci tu, l'ha fatta di tutto senza una sigaretta elettronica. Sì, perché io sono del parere che se uno vuole smettere, dice domani smetto e smette, sia forza di volontà, è così, io ho fatto così, sono stato 5 anni che l'ho fumato, poi da coglions ho ripreso. Sì, vabbè, non è da coglions, perché magari ti sei capitato in un punto, magari sei stato più debole e hai ripreso. L'ho fatto anche io, quello lì l'ho fatto tanti anni fa, avevo mollato, ero già un anno, poi in uno scontino ho ripreso, però non è, quello lì è stato un po' debole, però io l'ho fatto, io nel 2000 ho mollato, l'ultima volta che ho mollato e non ho più fumato, e ancora sono senza fumare. E ti faccio i miei complimenti. Mi ha detto, io invece l'unica cosa che c'è, non devi uscire con gente che fuma, perché io uscivo con un amico che fumava e mi è venuta la tentazione, capito? Venuta la tentazione, un giorno resisti, due giorni resisti, poi la febbre e voglia di chiedere, poi te la offrono, che più utile. Ehi, già, però perché sei stato tu debole, perché se tu avessi detto no, io ti dico una cosa, io quando ho mollato di fumare, ci avevo per 5 mesi il pacchetto in tasca, cioè tutti i giorni ce l'avevo in tasca, e nella macchina, eppure non l'ho toccato, non l'ho mai toccato, non l'ho. E piano piano poi alla fine ho perso, ci ho buttato via tutto, le ho date le sigarette, il pacchetto delle sigarette le ho date, e non ne ho più fumato, e tuttora non fumo. Non è che non si è messo vicino a uno che fuma, che ha contatto con me, può fumare quanto vuole, intanto a me non mi convince, no? Cioè, ho già quell'idea, sono partito con quell'idea e basta. Ma io quando ho messo 5 anni fra, avevo anch'io quell'idea. Solo che poi è capitato che ci sono stati dei problemi al lavoro e cose, e il nervoso, la cosa, non lo so che cosa sia, mi ha fatto riprendere. Ecco, e io vabbè, ho sempre dei problemi, problemi li ho avuti anche a me 3 anni fa, li abbiamo avuti quelli grossi, erano licenziati a 39. Vabbè, avanti Gianluca. Di quello, guarda, le cose possono capitare, però ripeto, la debolezza una volta che ti sei messo in un cammino che già sei anni che non fumi, insomma, guarda, è da pestarsi le mani e a ricadersi di nuovo, è da pestarsi le mani, perché non uno che fa 5-6 anni, io addirittura avevo uno che conosce l'agonizzante, non fumava, però da fumare, e tu non ti conosci, non dire amato in giro, ma non dire amato in giro, guarda che vuole riuscire, non lo. E mia moglie gli ha cercato da poco quando ho ripreso. Lui guarda, fumava, che la dovevo anche sgridare io, perché fumava troppo. E specie quando era al computer, quando guardava il televisore, cosa anche in casa. Beh, alla fine, quando ha saputo che era arrivata incinta la prima bambina che ho, come ha saputo che era incinta, ha tarappato le sigarette, non ha più voluto esambire, ne ha avuto due bizzini e ancora tuttora non fuma più. Vedi, ed è stata più forte di te. Sì, perché ha avuto un'esperienza di un'amica che era sempre la sigaretta in bocca anche quando era incinta. E io gli dicevo, sembravo io il paranoico che gli rompevo le palle, ma è da guzzinava, appoggiava la sigaretta alla guzzina, sempre con questa sigaretta in bocca, e lei incinta. E dicevo, guarda che fa male anche al bambino, anche per rispetto a lui e cose. Fatto sta che quando nasce, e lei mi dice, vai, non ti preoccupare tu, non ti preoccupare, alla fine non gli ho detto più nulla perché sembrava che la volessi sgridare, là. Siccome abbiamo una certa confidenza, io lo dicevo per il bene suo, non per il bene del bambino, la bambina è andata in mezzo al liquido amniotico che era totalmente nero, e in più ha avuto problemi, normale che... Ha avuto problemi, ogni tanto quando è a scuola si assenta, tu la chiami, la fai, questo sguardo fisso e cose. Questi problemi qui sono dovuti al fatto che lei fumava, capito? Quindi mia moglie si è associata da chi si muove. Ehi, capo. Non credi, la ti credo, che si spaventa una madre. Vabbè, comunque, è così che dovresti fare tu Gianni, prende un chiodo e appenderla. Pensandoci sto, mia moglie mi ha detto che mi regala, cioè mi ha fatto il regalo a Natale della sigaretta elettronica, però questa sigaretta non è ancora arrivata, nel senso che le ha ordinate e le aveva finite, questo dove le ha ordinate, dice che dovrà arrivare prima di Natale e poi non ce l'ha fatta, e quindi adesso sto aspettando, però non penso di utilizzarla per molto anch'io, penso che la utilizzerò per un po', poi la molla anche quella, perché ne sto sentendo troppe, buche, questi aromi che mettono sono nocivi ai polmoni, dice che fanno molto male ai polmoni, eccetera, eccetera. Poi dice che si ingerisce sempre nicotina. Sì, ma poi graduata la nicotina, c'è da 9, c'è da 18, c'è da 21, dipende come la vuoi tu. Io posso prendere anche senza, totalmente senza nicotina, capito? Solo per avere la fragranza e basta. Io gli ho detto, guarda, se puoi disdicila, perché sto quasi decidendo di smettere così. Dice, oramai l'abbiamo ordinata, che facciamo figuracce di cavo. Oramai la prendiamo, però un'idea c'è, anzi, io gli ho finito le sigarette e stavo per non comprarle, poi ho detto, ma sì, me ne prendo un altro pacchetto e basta. Guarda già, ti do un consiglio, ti do. Guarda, se la gente, poi ognuno poi fa quello che gli piace, perché e allora di fare quello che vuole sulla sua persona. Guarda, mola la sigaretta, guarda c'è quel bastoncino, se lo compri te lo metti in bocca, te lo metti, te lo lì, te lo tieni come tipo una sigaretta, fai finta che c'abbia la sigaretta e tira a lungo. Lascialo perdere quell'affare lì, intanto guarda non risolvi niente, la sigaretta si deve lasciare in tronco e non c'è niente da fare. Ok dai, avanti, avanti Gianluca. Sì, non so come. Ma guarda, la teoria è facile, nel senso che poi per cadere un fumo, però c'è anche da dire questo, che volere e potere, tutto dipende dalla psicologia, dal cambiamento, dall'intenzione che uno ha, dell'idea di dover cambiare, prima mentale e dopo fisica, veramente. E io la finivo. Capo, dai, capito già. Sì, è come una dieta, no? Una dieta è inutile che ti impongano di farla, devi decidere, tu devi preparare psicologicamente e decidere di farla. È la stessa cosa della sigaretta. Io c'è stato un periodo fra che avevo fatto tutti e due insieme, figurati se fosse il volontaneo, avevo fatto la dieta e non fumavo più, tutto di colpo. E ho sceso 50 kg, non ti dico quasi, sono diventato una larva che non mi riconoscevano manco gli amici. E dicono che cosa smetti di fumare, i grassi e cose, no, se fai dieta già gli anni che giro Mattesi. Ma io da quando ho lasciato la sigaretta ho ingrassato, è un bel. Mi dice la Gianluca che non mi ha riconosciuto più. lo so. Ma non dipende dalla sigaretta, sai cos'è? È sempre una questione nervosa, perché tu magari non hai la sigaretta, la accenderti e ti mangi una cosa e quindi quello lì ti porta a ingrassare, è normale, no? Sì, quello non lo metto in dubbio, che poi, cioè dopo la sigaretta, una volta che non c'è più la sigaretta, ti viene anche più fame, ti viene, perché tutto di, cioè, è tutta una serie di cose che poi vengono appresso. Il fatto che io non dovrei manco mangiare molto perché sono diabetico, quindi sarebbe tutto un tran tran. Sei pure diabetico, fumi? Mamma mia. Sì, ma non ne fumo tanti io. Io ne fumo massimo 10 al giorno, massimo, proprio andando male. Solo quando vado a pescare me ne fumo 2 pacchetti. Buono, che come dicevo per quello tu prima. Io invece quelle lì me le fumavo in un giorno, io da solo. Pacchetti? Cappa. Io mi fumavo 2 pacchetti sette al giorno, mi fumavo. Sia lavorando sia a casa. No, così è troppo. Così è troppo. Io, infatti, quando pesco, sai cosa c'è? Che hai la tensione, non lanci, poi ti accendi subito la sigaretta, poi trovi quello magari che parli, e si accende la sigaretta e lui ti vuole accendere pure a te, e così. Specialmente quando faccio la notte, quando faccio tutta la notte ti parlo, se no massimo proprio un pacchetto, ma se faccio tutta la notte anche lui ne basta. Infatti mi premonivo che andavo tutta la notte, ma portavo sempre due pacchetti, perché se no rimanevo senza, poi mi veniva l'Alzheimer. No, ma adesso, a parte che saranno pochi si va a pescare, non ci sto più andando, sono andato un paio di volte a Sette, così ne ho preso un po', poi come hanno visto che c'è il nero di seppia, ne ha accudito tutta la cantaraglietti, ha fatto male a appoggiarla a terra, quella lì, ha sporcato in terra e mi ha fuggito. No, io, guarda, ti dico una cosa, io c'avevo un vizio, lo fumavo quando mi alzavo, dopo se non prendevo il caffè non fumavo, non mi accendevo la sigaretta. Poi se per dire andavo a pescare, che anch'io ci vado a pescare, no, adesso non ho tanto e non vado. Cioè perché nella pesca vedevo anche tutte le belle pulite, si vedevo riprendere. E quando andavo a pescare, pescando non fumavo. Qualche volta, ogni tanto, ogni ora, ogni mezz'ora, se capitava me ne accendevo una. E poi capitava che toccava, ce la buttavo e le tiravo la canna, le tiravo, e non le fumavo. Facevo altre cose e non fumavo. Cioè, era quello il punto. Io fumavo un me, al lavoro, e quando ero seduto come sono seduto adesso. E a me mi fotti un bel pescando, e quando facevo subito ambulanza, che facevo la notte, stavamo lì a parlare fino a tardi, poi vabbè andavamo in dormitorio, sai, se non dormi veglia perché da un momento all'altro ti chiamano, specie il sabato e il venerdì ci ti spadare a tutto andare, e quindi devi stare sempre su chi va là, e magari ti accendevi la sigaretta, non dormivi, ieri sempre non dormivi veglia così, perché poi quando ti assopivi un po', drisso, avevo il telefono, urgenza, via, e via a partire, ti buccavi direttamente vestito con gli anfibi perché pronto a partire. Esagerato. Volontariato, sì, io ne ho fatto volontariato, non ho fatto un bel, però a livello di inciso, perché se non si vede queste cose qua, non a livello di ambulanza. Di ambulanza non ho mai voluto fare, perché no, non mi è mai piaciuto per dire la verità. Chi era acciso? Io ero acciso qua di sorso, e collaboravamo, infatti c'era anche Stassa e il dottor Torres, che collaboravano insieme allora. Mi pareva che era quello di sorso. Break, buonasera. Ui, Daniele. Buonasera signori, rientrando da Valcetto, adesso facciamo gasolina alla macchina, veloce, vado al secondo tempo della partita. Ciao Daniele, ben sentito. Ciao Fra, buonasera, ben sentito anche a te, ciao Gianni. Sono qui a San Giorgio, sono adesso per la 131, devo arrivare al rifornitore, dopo devo tornare domani a casa, meno male hanno messo i semafori tecnici. E dove eri in girella? Calcetto, stavo giocando, diciamo. Stavo giocando a calcetto. Ah, stava a gara. Ma vabbè, ma intanto ci vuole a muoversi un po'. Ma stavo ascoltando che deve cambiare lavoro, così. Devo cambiare lavoro io? Mi sembra di capire così ieri. No. Perché? Ma l'avevo capito. Allora, Mario, dai. Che stavi parlando di assicurazione, di cose, pensavo che dovessi fare, ho capito che devi fare degli esami, boh. No, hai capito, stavo parlando con Massimiliano, e poi, vabbè, era proposto a tutti, a chi interessano delle polizze, sia per l'accantonamento di TFR, cioè la liquidazione del gruppo principale, se ti interessa anche a te. Quella che c'è di a fondo, trattiene a fondo, poi a seguire tutto nel fondo pensione, a posto di essere tassato al 30%, viene tassato mi sembra al 5, al 10, o al 9, adesso non mi ricordo, la mia ragazza lo sta facendo. Fai questo fondo pensione, per di più, quando lui te lo versa, te lo versa direttamente lì, senza prendere solo lui in azienda, così non ti futti di marco di lavoro quando ti devi, quando ti toccano, capito? Tu li versi lì e fruttano, hai capito? Un attimo di bianco, già, vabbè, ma noi l'abbiamo fatto, diciamo, quasi tutti, per dare un po' di forza in più all'azienda, è un periodo un po' così, e abbiamo deciso quasi tutti di lasciare un'azienda, le TFM. K-K. No, beh, capito, poi c'è un'altra assicurazione, ho trovato mio cognato, mi ha detto che praticamente è stata una fregatura, che ha ritirato, gli hanno dato 5.000 euro in meno. Aspetta, aspetta, vuol dire che l'ha ritirata prima della scadenza? Sì, l'ha ritirata un anno prima. No, ma allora c'è qualcosa, che assicurazione era? Un conto, una assicurazione sulla vita, poi ci sono le assicurazioni fondo pensionistico, puoi fare anche con la fondo pensione, quando ne hai ne metti, fino a quando te ne vai a pensione già, a partire da 10 euro, puoi fare pure il tuo figlio, puoi fare anche quella che ne metti 50 euro al mese, fino a quando compie 18 anni, quando compie 18 anni si ribita, capito? Non so come funziona, non ne ho avuto, allora io ho avuto per i miei figli, per mia moglie e per me. Quella vita, quella che tu puoi ritirare oppure fare a fondo pensionistico, come vuoi, a tua scelta. E niente, ho sentito anche dei miei colleghi che l'hanno ritirata perché dovevano comprarsi la casa e ricevevano soldi. Cazzo, ma è te lo sai, dirà che mi ha bruciato, ma è un atto di meno di quello che io ho versato. Possibile, dipende da che assicurazione c'aveva, dipende da qual era, lo sai perché? Per un conto è se tu chiedi un acconto di quello che hai, un conto è ritirarlo tutto, hai capito? Perché se tu lo ritiri prima, se devi leggere bene nel caso di quello che fai, con che compagnia assicurativa lo fai, capito? Perché anche se fallisce la ditta è un conto tuo, neanche se fallisce lo Stato italiano ti ribruciano quei soldi, perché c'hai l'uno e mezzo garantito, adesso è sceso uno e mezzo, io ce l'ho a due, perché l'ho fatto 2 anni fa, capito? Allora, vabbè, l'avevamo proposto anche a noi, c'erano arrivate delle lettere e cose, ma non... Io non l'ho mai tolta dove ce l'ho, l'ho lasciata sempre all'azienda, anche perché serve per, diciamo, incentivare cose, anche per aiutare un po' l'azienda, dai, lo facciamo, e l'abbiamo fatto per quello. Andare, ciao a tutti, pensione non ce ne daranno, proprio pensione non ce ne daranno a noi, tanto. E se vorrà popolare Gianni? Scusate se avete chiamato, ma ho fatto un po' di piano. Kappa, non c'è problema. Gianluca c'è? Penso di sì. Gianluca? Che c'è di uscire mai? Stai uscendo già? Per chiudere la buona push, usate la buona push mi devi chiudere giù, ok? Adesso sì con il collo. E allora? Ci fa bene? Giallo, rientrando, buonasera. Rientrando. E già, poi sempre dipende da chi lo vuole fare una cosa, capito? Sempre per chi lo vuole fare. E poi io sempre lasciato l'azienda, cazzo, adesso l'ultimo che è quella dell'ultima azienda che avevo chiuso l'anno scorso, ci doveva TFR di 2 anni, lo so, ma non ho preso l'ultimo assegno, nel mese scorso, a 200 euro, 2000 euro, a 200 euro, a 200 euro. Ai, avrei preso quei 2000 euro, mi chiamano che ci siamo fatti in un lucro, e invece a 200 euro, 200 euro, logicamente vedi 200 euro, dice, ah, cazzo, questo mese devo fare questo, a casa, e io sì, capito? E vabbè, vuol dire che non è un'azienda seria, la nostra ha problemi di questo genere, boh, con chi se n'è andato non ne ha mai avuto. Di solito dopo che se ne vanno i soldi li danno subito del TFR. Se te ne vai tu singolo, ti dà tutto, te li liquida tutti in busta paga, poi guarda quanto te li tassa, un casino, sarebbe un casino lo Stato, il problema è se licenziano per dire 10 da te, fa il taglio di 20 persone di botto, cazzo, perché già uno se ne è andato da solo, quindi ha fatto una colpa, tipo 100 da te, 100 dall'altro, 100 da quello, 1000 euro era liquidato. Però poi cosa succede? Che quando ce ne vanno un motore di persone insieme, mi catterà subito. Cazzo, hai capito qual è il discorso già? Quello sì, quello c'è vero. Signori, io sono arrivato qua alla Maisonna. Daniele la motrice passa in quelle di Ottawa. Saluta Franco Assorso, Gianluca e Papà Franco. Un abbraccio, un salutone anche a Gianni lì nel monte di Sassari. Questa motrice chiude comunicazioni e vi auguro buon proseguo di questo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mi senti tu, Dani? Mi sembra un robot. Ciao, Daniele. Hai sentito, buon tutto, dai, buon rientro, ce l'ascoltiamo per le prossimine. Avanti, Gianluca. Ciao, Daniele, alle prossime, buon tutto. Ma ce la sentiamo. A meglio tempo. Ciao, ciao. E io ciao a tutti, ragazzi, sacco, dai. Ciao, ciao a tutti. Gianni, adesso l'ho passato un po', dimmi un po'. Bene, va bene, no, robo come salutato. Bisogna scandire le parole, gava gava, dai che chiudo, ciao ciao. Ciao ciao, buona serata, dai, avanti. E che ha facciato la niente, e vabbè, è l'apparato anche che porta a fare quell'affare lì, è bellissimo quell'apparato lì. Pagamma. E vedi, lui l'ha fatto fare, io l'ho comprato già pronto dalla casa. Questo l'ha già fatto. Vabbè, ma l'hanno sempre fatto artigianalmente, dai. È stato, qui abbiamo fatto l'accorgimento, dai che stanno. Alla prossima ragazzi, quando c'è tempo ci facciamo una bella chiacchierata e ci vediamo per piccare cattina. Ciao ciao. Ciao ciao Dani, ci sentiamo. No, esce bene, esce molto bene, è chiaro, le parole belle chiare. Ciao, ciao Dani. Bello, bello, bello, vabbè, prendere quei soldi però per un CB del genere, non è che, sì, è bellissimo, però spendere i soldi in altro, più in alto. Avanti, Gianlu. Sì, ma a quella ti piace, mi fa. Io sinceramente se lavorare una cosa stessa di quei soldi più una cosa, mi preso, ma giustamente i gusti sono gusti e bisogna rispettarli. Sì, sì, quello sì, quello sì, Gianlu. Purtroppo ognuno ha i gusti suoi e bisogna rispettarli. No, io sono i costi di quegli apparati lì e comprerei una cosa più in alto, che mi piacerebbe molto di più. Avanti Gian. E vabbè, ognuno ha i suoi gusti. A me piace anche quello, dico la verità. A me piace anche perché io viaggio e ce l'ho così per farmi sentire. Quando viaggi ti piace arrivare a tutte le parti. Io, per dire, con un antennino a 45 centimetri praticamente parlo con tutti. Con tutti quanti, con quell'apparato lì. Dove c'è un apparato normale non ce la fa lì. Sì, sì, Gianni, quello sì, è vero, anche a me piace quando uno va in macchina e ti fa sentire, è bello, no, piace anche a me, però diciamo che io, cioè, il mio parere poi ognuno c'ha il suo. Io per comprare a quei soldi lì un apparato, un baracchino, diciamo, dai, mi prendo una cosa più sofisticata, che mi piacerebbe andare oltre a ascoltare e fare, capito? Non so. Ma quei baracchini lì si usano, diciamo, per fare di ex, e qui sono proprio da competizione. Sì, quello sì, infatti li ho sentiti, l'estate l'ho sentiti, aspetta se li ho sentiti nel mese d'agosto, che erano vicini, infatti nel mese d'agosto ho conosciuto cosa molto chiaffata. A Daniele, l'ho conosciuto, che veniva nel magazzino dove lavoravo io a caricare, e siamo conosciuti lì. Gappa. Ma tu sei dentro la zona industriale? Gappa. Ah. E anche io qualcuno l'ho fatto lì. Come si chiama quello dove sono andato io? Vabbè, magazzini centrali, di solito. Sono andato a portare l'acqua, al motel. Poi adesso non c'è più, mi pare, non è tu che espansi l'altra, quella che fa il vasui per le marce di dieta, quella così. Ehi, hey, capo, la... come si chiama? Quella è chiusa. Quella vicina, dopo vicino all'incrocio lì, subito dopo a destra. Esatto. No, quella è chiusa, non c'è più quella lì. C'è Tour de France, l'altra è dietro, come si chiama, che è sempre la Tour de France, dai, solo che c'è un altro nome, adesso non mi ricordo. Vabbè, un po' tutti stanno chiudendo lì, mamma mia, è una desolazione vedere queste cose che funzionali, che chiudono, boh. Purtroppo già è così, tu pensa, il lavoro che c'era lì dentro, adesso non c'è più niente, adesso l'unico impianto che è rimasto in piedi è il nostro, l'impianto Gomme, è rimasto in piedi, io lavoro lì all'interno dell'impianto Gomme, alla produzione, lavoro, e agosto perché eravamo fermi, allora ci hanno mandato lì al magazzino centrale e mi sono fatto una settimana al magazzino centrale. E la seconda settimana me la sono fatta alla netezza urbana, lì dentro Porto Torres. Come la netezza urbana? Cioè, hai lavorato per la ditta che detiene rifiuti? Capo, io lavoro per quella ditta. Ah, quindi a diversi, diciamo, come si chiama, cicla? Capo, il nome è, allora, la casa madre è la cicla. La madre, però la società che ha preso l'appalto è la CEA di Cagliari. Ecco, e voi cosa fate? Riciclate le gomme? No, negativo, noi produciamo gomma, nell'impianto dove lavoro io lo produciamo gomma che gredda, che poi va per gli impianti per i continenti, all'estero, per tutta l'Italia, che capano sto dicendo, per tutto il mondo, dai, guarda lì, e lì fanno pneumatici, manicotti che usiamo per le macchine, quei manicotti dell'acqua, queste cose così, poi fanno manicotti quel genere lì, fanno la gomma. Quello è la banda segreta, la lavorate, fate, diciamo, formate la gomma, diciamo, da, non so da cosa si faccia, comunque, e poi la mandate grezza e loro la trasformano. Cappa, e gli danno i colori. Capito. Ma quindi la gomma non è che la fate da materiale riciclato? No, negativo. La fatta c'è acqua, sale, ci sono tanti materiali, roba tossica che c'è in mezzo, è un casino, non mi ricordo bene tutti quanti gli ingredienti che ci vogliono. Comunque, è una serie di ingredienti che fanno le miscele e poi va in carburazione, la gomma la carburata a Napoli, con acqua e sale e poi diventa gomma, diventa. Poi da lì va passata negli altri macchinari, nelle spelle, poi va andare in un forno, va seccata, poi e poi va nelle presse e va fatta a fare da 30 kg. Coagulata comunque. E cappa, a me, se ogni tanto non mi esce là. Lo so, sono lapsus. Avanti Gianlu, tante volte vuoi dire una cosa e non riesci a dirla, la sai come si dice ma non riesci a dirla. Gianluca invece ha un lessico, diciamo, sciolto. E allora, a sottolineare, sapere fare. Ma che augura quando travaglia di chi lo fa? Sì. C'è un po' di odore, non è normale. Sperando sempre che non riescono a bruciare, perché se bruciano allora lì devi scappare. Quello volevo dire, infatti, non mi scorso che magari c'è dell'odore sopportabile, ma comunque sia che non faccia male. Però il pericolo è che magari va a bruciare, allora sì, sciopero, ci mancherebbe, ordinare due incendi. Sì, capo, guarda, abbiamo, diciamo che dopo siamo rientrati, allora, il mese scorso, all'inizio del mese scorso ha bruciato, in testata, ha bruciato e dentro l'impianto non si poteva stare. E abbiamo dovuto aprire tutte le porte e fare svaporare tutto quanto, lasciare, e noi ci siamo dati per lì, perché non si poteva respirare. E in più la gomma è stata mandata in cassa, portata fuori vicino all'acqua. Vediamo se si scindiegge, eh? Queste cose, quando prende fuoco, cos'è che provoca queste cose? Non è che prende proprio fuoco, brucia la vite, quando va a secco, se non gli danno tipo, la quantità dell'acqua, questa cosa qua, no? Va a secco, vanno troppo veloci, avviano in velocità, allora può rischiare di bruciare, però brucia nella vite, brucia, però lì fa solo fumo e niente altro. Se non riesce ad andare al forno, se va al forno può capitare anche che si accenda. Ma il fumo di gomma è continuo, è nocivo pure. Non ci sono gli zingari qua che stanno piandando, che mettono questi fuochi alle gomme, nuvoloni di fumo allucinanti. L'ultima volta quando sono stati i vigili del fuoco a spegnere l'incendio, che avevano fatto con questi pneumatici tutti consumati, che bruciano, loro bruciano di tutto, se usano anche per dentro le roulotte cosa nociva, bruciano gomma per scaldarsi e cose. Poi fatto sta che sono andati i vigili del fuoco a spegnere gli incendi e li hanno presi a sassare. Avevo sentito poi. Vabbè. No, da noi è tutto diverso. Guarda, ti dico una cosa già, se tu fumi, c'è il pacchetto delle sigarette nel taschino, no? Non lasciare nel taschino, lasciateli in un posto che non arrivi lì, perché tutto l'inquinamento, tutto l'odore della gomma, queste cose così, se la tira la sigaretta, quando ti accende la sigaretta, stai fumando, come tiri, è come che stai prendendo un pezzo di gomma e te lo stai tirando. Certo, allucinante, da filtro li fa, allucinante. Avanti, Gianluca. Ma perché dopo anche in quel tipo di lavoro lì è consentito fumare in quell'ambiente lì, in quelle situazioni? No, lì non è consentito fumare perché ci sono i posti appositi per andare a fumare, però c'è gente che va a fumare e si lascia le sigarette nel taschino, capito? Cioè, se uno, tu ce l'hai dentro la tasca del giubbotto, del giubbino, il pacchetto delle sigarette, mica te lo vede nessuno, te lo vede. Però da lì, se capita che brucia, succede una cosa del genere, le sigarette, se ce l'hai aperto il pacchetto, guarda, si riprende tutto l'odore, tutto il coso della bruciatura delle gomme. Diciamo così, se l'assorbe e se vede che uno se ne accorge, giustamente, no? Rimane impregnato. Probabilmente forma del pulviscolo finemente polverizzato che non si vede, capito? Capa già. Infatti è così. Però te ne accorgi quando te la accendi la sigaretta. Una volta ti accendi la sigaretta, che prendi quello volo lì, buttaci tutto perché non vale tutto. È pericoloso. Fumare certe cose è pericoloso. Già la sigaretta fa di male, da poi ti pone pure la gomma e mezzo. Capa. Infatti è così. E poi già, bruciare una gomma di macchina, bruciarla così al fuoco, così, non fa la puzza tanto di quella che fa quella greca. Quella greca è peggio. Sì, peggio di mio cognato che era, lavorava a fianco all'impianto dell'ammoniaca, diceva un odore che non si poteva stare. Prima, dopo è diventato visto, adesso non mi ricordo più come si chiama, stava fanno riciclaggio di uli di fronte alla cosa lì, all'agip, al deposito costiero, magari domani si riceve in chili. Carità. Diciamo che non è tanto salutare lavorare lì, però purtroppo chi ha bisogno di lavorare fa quello e l'altro. Ecco, infatti è così, già, che ha bisogno di lavorare così. Guarda, io ti dico una cosa, in famiglia non c'è nessuno che soffre di pressione, queste cose qua. L'unico sono io, che ho lavorato lì dentro. Ma vedi, raccogli tutto quanto, per carità. Tutto l'immaginabile te lo raccogli. Lo so. Magari anche la tensione, la cosa, lavorando in questi posti. Io quando vengo lì a consegnare mi sento un po' strano, boh, tutti i vapori che escono, sembri un altro mondo. Ma diciamo che quando uno viene così non è che se ne è accorga tanto, là. Però bello, il brutto, diciamo, non bello, il brutto è lavorarci dentro anni e anni. Allora sì, credo che sì. Beh. Ma mio cognato lavorava lì alla Cime Montubi tanti anni fa, mi ha detto che dal viaggio della Munia che lo si può dire, sa? Alla Cime Montubi? Capo. Capo, ho capito. Lì non era tanto buono, non era. Tu pensa che di fronte all'impianto dove io faccio un carico di fronte nella pesterina delle gomme, faccio un carico anche, no? Quando faccio la mattina, tipo domani mattina, io dalle 8 all'una devo fare carico lì, carico gli articolati, queste cose così. Tu pensa che davanti, di fronte, ci abbiamo l'impianto della vernice, ci abbiamo. Tu devi sentire che cavolo di odore escono da lì dentro. Mamma mia. Ma come la roba dove va messa? In sacchi o come la carica? Allora sono cassone di legno, sono tutte fatte in legno, sia a fondo, sia a materiale in giro, e poi ci va dentro questo cassone ci va del cartone e politene, un saccone di politene nero. E va lì dentro, e poi va coperto e spedito. Ah, che affare. È bene, ben sigillato, è una cosa ben fatta. Ben sigillato e tutto. Ma vabbè. Ogni lavoro ha i suoi perché, i suoi rischi, le sue cose. Vabbè, anch'io carico, uso muretto, uso traspale elettrico, guido, insomma un po' di tutto. Ecco, se io lì dentro faccio carellista, sarebbe bulletista, dai. Io l'ho fatto per tanti anni a Lattini, quando ero a Lattini, trasporti europei marittimi internazionali, e poi niente, poi mi sono cambiato lavoro e sono entrato lì alla Sisa, con l'ottore, vabbè, io sono entrato al Turismarketing e poi è diventato Sisa. E avevamo il capannone, quindi movimenti di merce ne ho fatto parecchi, scaricavo container, articolati, eccetera, eccetera. Allora se fare il mestiere mio, se fare. Meglio così. Quello è un lavoro non bello, però a chi piace, è bellissimo. Sì, quando è pulito sì. Se si tratta solo di scaricare e caricare acqua, merce alimentare, roba durissima, quando si tratta poi di stare anche in mezzo agli odori è un po', no? Sì, quello sì, quello sì. Mezzo agli odori è tutto diverso. Vabbè, vabbè, dai, il lavoro è quello. Prendiamocelo. Dura troppo. Speriamo che ci mandano in pressione. Sì, è canto un anno. Io dovrei essere già fuori, è solo che già Monti ha detto, l'uomo del Monte ha detto no. Sì, io ti facevo più giovane. Quanti anni hai? Non sono così vecchio, ho 58, subito 59. Andavo di meno. Andavo sui 45 dalla voce così. E allora sì, quindi ci sei parecchi anni lì, quanti anni ci sei? Sono quasi dal 73 lì dentro. Fatti un conto, io dopo la voce ci sono 32 anni. Meglio, anche tu già ci sei un bel po'. Allora tra poco te ne vai anche tu. Ho un disgrado, ne mancano ancora. Piano piano già, piano piano. Piano piano, vedrai che non te ne accorgi neanche. Se metti 11 anni durate, quando è finito, sei a posto. Ma sai cosa c'è di brutto? Che aspettiamo tanto la pressione e dopo ci aspetta un bruttoletto. Bravo, bravo. Quello è una cosa proprio che fa bene, perché stiamo lavorando per loro, non per noi. Stiamo lavorando. Tutto da fare. Vabbè, dai, non voglio andare oltre, se no anche lì a te metti un po' di brutto, facciamo una rovina, facciamo. Avanti, Gianluca. Ho venuto solo. Ma tanto non trovaglia uno. Ma davvero il discorso lo fatto, no? Ma uno, cosa ti pensi che tu possa rendere a 65 anni, a 68 anni? Cosa posso rendere? A parte chiuso. Ma è da voi, la gioventù, le nuove generazioni, ma tanto che come sta a travagliare, me lo sapete di voi. Eccolo, buonasera. Avanti Sandro, buonasera anche a te, ben sentito. Ciao Sandro, buonasera, ben ascoltato anche a te. Avanti Sandro. Buonasera signore, Gianni Doppio Rullo, Franco e Gianluca, buonasera circolare, dai. Ok, no, vi stavo seguendo un attimino, dai, vi stavo seguendo mentre che mi dedicavo ad altro, va bene, avanti Franco. Ehi capo, mi stavo parlando un po' di vecchiaia più che altro. Cosa? Di pensione queste cose qua. E quello quel bastardo di Monte che ci ha rovinato. Cosa ci vuoi fare? Ehi, vabbè, dai, ok. No, già è giusto ricordarsi un attimino dell'infanzia, ricordarsi un po' della vecchiaia, questo è giusto. Poi logicamente se andiamo a mettere in conto tutto il resto, allora magari ci rimane un po' di delusione, ci rimane un po' di chi farà, ma l'importante è rosicchiare, dai, noi bene o male già siamo abituati a rosicchiare, capito? Non siamo abituati soltanto a un polpo alla carne, bene o male diciamo ci difendiamo, male diciamo a chi non riesce diciamo ad affrontare la situazione, a chi non riesce a rosicchiare. Comunque, noi logicamente poveri immuni dobbiamo soltanto aspettare che si risolva qualcosa e altro, poi qualche volta ci incavoliamo, qualche volta spariamo qualcosina, ma giusto così con l'attimo di sfogo, nient'altro di più. E vabbè, tiriamo avanti, dai. Avanti Gianluca. Io ce la sa ben fatto. Cosa devo fare? Ancora quello che ce l'abbiamo, ancora da poterci. Ma poterci lamentare, lì. Il peggio sarebbe quando ancora nessuno le parlerebbe, perché allora non ci sarebbe più sarebbe l'indifferenza totale, capito? Allora lì proprio la fine. Dica, però, io, vabbè, ma adattarsi forse diventa anche una questione di abitudine, capito? Uno quando magari si trova un po' svogliato, un po' deluso, un po' del coso, allora magari si attacca lì a, diciamo, a sfogarsi. Lo prende magari come un attimo di sollievo, ma l'importante è non abbandonarsi mai, l'importante è tirare sempre avanti nel migliore dei modi, tutto lì. Va bene, Gianni. Sai cos'è? Che quando diventi troppo anziano poi non hai più gana, chi sa, ha ragione, quando devi andare in pensione che sei troppo grande non ce la fai più, specialmente su certi lavori. Io avrei praticamente messo sui lavori più pesanti l'età pensionistica più breve, diciamo. Invece i lavori, diciamo, più rilassanti, tipo l'impiegato e cose, potevano andare anche più in là. Per me sarebbe, diciamo, stata l'unica cosa giusta da fare, perché ci sono dei lavori che sono più logoranti. Sì, ma Gianni, io ti posso dire una cosa, e magari senz'altro lo potresti confermare sia tu, Franco e Gianluca. Io ti posso dire una cosa per questione vissuta: al giorno d'oggi, nel 2013, c'è ancora gente, diciamo, anche giovani, non diciamo gente di una certa età, ci sono giovani elementi di una certa età dove determinati lavori si rifiutano totalmente, diciamo, di poterli fare, capito? Pretendono sempre magari il lavoro meno faticoso, il lavoro pulito, il guadagno molto più superiore e quant'altro, però purtroppo questo non è dovuto da tutti, e quindi bisogna prendere quello che passa. Certo che ognuno mira a lavorare di meno, a guadagnare di più e quant'altro, tutto lì è, però purtroppo, come dice, il lavoro con i guanti bianchi non è per tutti, tutto lì. Franco. Sandro, però c'è una cosa, Sandro, da dire anche che non è dovuto fare un fascio, perché ci sono ragazzi che hanno avuto il tempo di lavorare e non gli permettono di lavorare, e a parte quelli che non hanno mai avuto voglia di fare niente, perché c'è stato prima quello che non ha avuto voglia e ce n'è ancora, c'è anche dei nuovi ragazzi, ce n'è. Però cazzo, c'è tanti giovani che hanno voglia di lavorare, voglia di crescere, eppure non glielo permettono, perché adesso l'anziano per lo Stato, diciamo noi, no? Per lo Stato possiamo lavorare fino a 70 anni, secondo loro, no? Possiamo lavorare, però per altre cose non siamo idoni, perché per la patente non siamo idoni a avere 10 anni di patente al rinnovo dopo 60 anni, dopo 50 anni. Se sono idoni a lavorare, sono idoni anche per la patente, io penso, Ma aspetta un attimino lì, logicamente dipende sempre da una questione di categoria, dipende sempre dal lavoro che esegui. Certo che se hai 60-70 anni, per dire, non puoi fare un lavoro, per dire, il classico muratore, il classico e così via, oppure 70 anni bisogna vedere, diciamo, le condizioni in cui si trova la persona, se il fisico glielo permette, se non ha delle conseguenze, se per dire ha delle carenze di vista, di udito, insomma ci sono tante cose da valutare. Il discorso della patente, logicamente, io lo trovo anche un discorso abbastanza favorevole, che superata una certa età tu devi, diciamo, ogni 5 anni, per dire, devi fare i tuoi esami, devi fare i tuoi controlli per così via. Logicamente, se uno non ha più, diciamo, conseguenze dietro, perché logicamente non possiamo mettere un ragazzo di 20-30 anni con uno che ne ha, per dire, 50, 60 o 70, che, per dire, i riflessi magari sono minori di quelli di 30 anni, magari pure in caso un settantenne che ancora fa sul camionista, che deve affrontare dei viaggi lunghi, insomma ci sono tante cose fra, e poi logicamente con tutte le cose che succedono, con tutti gli incidenti che succedono e quant'altro, insomma secondo me è anche buono, diciamo, che ci sia, diciamo, un controllo del genere. Lasciamo perdere che anche da cattivo ci passa il buono, però è giusto che ci siano. Aspetta Sandro, non volevo dire, forse fa inteso, io non volevo dire questo, io volevo dire solo che non è il fatto degli elettrici, queste cose qua, io ho detto se sei idoneo per fare un certo tipo di lavoro, perché in tutti i campi che hanno fatto quella legge lì, hanno fatto per i lavoratori, per cui lavorare sino a 70 anni, a 65 anni, 60, 70 anni che volevano fare, in tutti i campi, non in un campo solo. Perché l'operaio poteva lavorare sino a 70 anni. Allora, io non ho detto il coso della patente, però non sei idoneo, perché se tu gli togli la patente al lavoratore, come fa ad andare a lavorare? Oppure se lavora con la patente, andare a lavorare se non c'è la patente? Sì, ma Franco, torniamo indietro di 20-30 anni fa. Di 20-30 anni fa, quando per dire la macchina se la potevano permettere in poco tempo, cioè in bei buchi, c'era chi doveva affrontare un viaggio per dire di mezz'ora o di un'ora per poter raggiungere il posto di lavoro, capito? Diciamo che oggi siamo arrivati a livelli, tutti hanno la macchina, tutti hanno la comodità, c'è chi ha la possibilità di lasciare la macchina ferma e prendere per dire il mezzo pubblico, non lo fa, per questione di comodità e quant'altro, quindi cioè, siamo arrivati a un livello diciamo di benessere e quant'altro, capito? Comunque facciamo girare anche per Gianluca e Gianni, dai. Mi prendi Gianni? Io per dire, ho viaggiato tanti anni in treno, in pullman, sino a quando mi sono fatto la casa, almeno per conservarmi i soldi per comprarmi la casa. E ho cercato di tirare un po' la cinghia, poi dopo che sono riuscito a pagarmi la casa ho viaggiato con la macchina e ti dico il perché. Perché io esco all'una e mezza, sino a Grande Abiglia Lubulma, quindi bassa di tempo. Non coincideva, prima ci va l'una meno un quarto, non coincideva, adesso esco all'una e mezza, però non è mai l'una e mezza, sono le due meno un quarto, meno dieci, quindi non sai mai, è meglio che tu abbi la macchina, perché quando tu esci dal lavoro ti posi e parti, non devi stare a aspettare sotto al freddo, sotto la pioggia. Guarda che io ne ho fatto di... Guarda che io andavo sino alla stazione da Sassari con la macchina, lasciavo la macchina alla stazione, prendevo il treno. Il treno partiva alle 7 e entrava alle 8 a lavorare. Arrivava alle 8 meno 10, meno 5 a Porto Torres, poi dalla stazione, anzi allora andavo al porto, dal porto sino a Vettore Sacchi, dove ci sono i cinesi adesso, andavo a piedi e da Giovatto di sacrifici. Adesso non ce la faccio più, dico la verità, già che mi sta venendo pesante viaggiare anche in macchina. E non riprende nessuno, ho fatto la paranoia. Hai detto bene già, cazzo, non ti immagini di uno, specialmente se vuoi fare rientro. Ma Giallo, non coincidono gli orari, perché basta che tu lo sai benissimo come sono le consegne, no? All'ultimo momento ti arriva quello, ma non è che mi può consegnare, ecco, figliano e loro la prendono sempre, non è che rifiutano mai. Può essere l'una e mezza, come può essere l'una, non guardano l'orario. La prendono e tu la devi portare. E se tu scarti quell'ora lì che passa il pullman, poi a prendere l'altro ci vuole un'altra ora. Sono davanti bus. E da l'una se ne andava a mangiare. Già sono gufracco, a giocare una vita in questa città. E prima allora meno un quarto in punto uscivo perché poi passava il pullman e i colleghi dicevano cose. Allora sai, per non evitare anche queste storie che ero in contatto, che ero qua, che ero là, allora ho deciso di prendere la macchina e viaggiare in macchina. Buonanotte. Hai fatto bene, almeno nessuno ti dice niente. Stai giovrazzando nove macchine e tre moto. Sì, vabbè già, portate quanta siete. Vabbè, è un grido. Vabbè, comunque prima ero più giovane e facevo da Sacro Cuore sino alla stazione, molte volte andavo a piedi, d'estate andavo a piedi, facevo da casa di mamma quando era ancora a Giano, a casa di mamma sino alla stazione a piedi, poi me ne tornavo a piedi. Mamma mi diceva, prenditi il tram. No, cos'è il tram? Faccio prima a piedi. No, non mi piaceva aspettare anche il tram. Già aspettavo il pullman, dopo il voluto, poi c'era il giorno che c'era sciopero e non passava. E allora via correndo, andavo a piedi, correndo, quasi sino a casa, col fiatone a prendere la macchina, poi scendere in macchina a porto dottore. Tutte disagi, tutte cose, guarda, un bel strano. Ecco, Sandro, ma Sandro da parare. Sandro dove si è sentato male, ma è andato a portarci il cane, perché non li passava mai il mic, magari ci doveva portare il cane giù. No, ma l'avrebbe detto, lui si è sentato un attimino all'improvviso. Ecco, oh già. Gli ho messo i cosi, come si chiamano, ma cosa, le cuffiette al microfono, ma dov'è c'è la modulazione? No, no, no, assolutamente, va benissimo. Ecco, ma stasera gli ho preso le cuffiette, sono passato lì a Sassano, di Micico, e gliel'ho preso, perché, dice che raccoglieva troppo rumore. Ma quale all'MC60? Cosa? Cosa c'è? La MC60? Ho negativo, ho le mie VP5. Ah, e hai messo la cuffietta? Dove l'hai beccata questa cuffietta per le VP5? Ah, guarda, sono belle, nere, perfette, sono, sono giuste giuste. Lì all'emiciclo dove vendono roba di quella di musica, lì pianoforti, queste cose qua. Ah, ti ho capito, sì sì sì. Vabbè, ci vogliono per i soffi, per le cose, per i ventoli si usano, anche nelle telecamere le metto. Chiamano anche soffi, mi sembra lo chiamano, non so che cosa. È un bel bagaglio, non per essere, per farmi fatti in tu, ma... Vai, che cosa non è cazzata, non è il tuo cuore. E allora, io ci bobbiglia. Ecco, infatti io ho preso quelli grossi, alle mie VP5 e alle mie VP4 ne ho preso uno anche, e sono uguali, guarda, sono giusti, giusti, giusti. Allora, scusate un attimino, Gianni. Narami. Aspetta che ho dovuto cambiare perché c'è qualcosa che non andava là, deve essere fusibile che... mi si è, ci deve avere qualcosa da controllare, che ho cambiato, mi sono fatto bene, sì? Abbassa un tantino la radio, che è troppo forte. Ok. Ok, va bene così? Sembra di sì, dai. Io mi sento un secondo solo che mi devo mettere il pigiama e poi magari riprendo, va? Va bene. Sandro, ma cosa ti è successo? Ok, ok, va bene, già allora siamo qua. No, dimmi come mi ascolti fra. Benissimo, benissimo. Ah, ok, dai. No, no, no, stavo usando l'altro, però ho visto che mi si è spento, ma con colpettino, infatti ho toccato dietro il fusibile e senz'altro ci deve essere qualche falso contatto, e niente, quindi ho dovuto cambiare un attimino. Ehi, capo, no, sta andando bene anche questo, dai, ho visto che stai usando il microfono su Delta, ho visto, ho sentito, dai. Va bene, avanti Gianluca. Ma no, non è cambiato nessun coso, come si chiama quello? 45. Caffa. No, Franco c'è un orecchio da professionista, sì. Ok. Della volta c'è il tastino dietro del mic che prendendolo che cosa lo inserisce, lo puoi disinserire, infatti quindi Franco l'ha azzeccata subito. Quel doppio bifio ce l'ha solo Saldetti, Sì, esatto, ce l'ha solo lui, diciamo, vediamo poi, va bene, è bello, un bel microfono per lui, non è la voce di Dio, è bellissimo. Avanti, Gianluca. Scusami, attimino di... mi sposto un attimino il canale, un attimino, mi prendi Leoncino per i saluti a Gianni, Capri 2, fai girare. Avanti Gianni, Capri 2. Sono rientrato. Sei registrato, io arrivavo che ero addormentato qui, mi è venuto quello di sonno, da poco fa acceso, e mi ero addormentato nella radio, secondo. Ok, grazie comunque, gli amici produttori, amico di sonso. Ok, c'è un break subito, avanti sul break. E che ce ne ho sentito uno breccandomi, Giuseppe. C'era... no, era Gianni che è rientrato, Gianni doppio ru. Buonasera ai nuovi entrati, da. Sente? Un attimo di bianco, dai, devo vedere la cosa di prendere posto alternata, dove c'è l'amplificatore del coso acceso lì. Un attimino, rimango un attimino con il rischio, ragazzi. Kappa. Sandro, avanti. Ok, va bene. Ciao Gianni Capridone. Buonasera, vai, avanti. Ciao Sandrino, buonasera. Stamattina ero al tuo QTH, ho pescato questo apparato che sto usando adesso. Era a Porto Torre stamattina, ok. Tutto bene, sa, riprendi. Ciao Gianni, dai. Ok, dai, va bene, quindi sei eri nei queste coordinate, dai. Va bene, si tira avanti, dai. Si tira avanti sempre nel migliore dei modi e niente, tutto lì. Ok, è meglio così. Ok, Giuseppe, riprendi, tutto bene anche tu, ho sentito che stai lavorando, vero o non è vero? Ho negativo, chi ha detto che stavo lavorando? Io ho detto, era nel discorso di Franco che stava facendo, che io ho detto solo quello, che erano cose, come si può dire, aiutami tu Fra, come in quel discorso lì. Capo, dai, che è fortunato chi sta lavorando a queste cose qua, stiamo parlando a parte Berlusconi, vabbè dai, niente di più. Ciao Gianni, Capi 2, non so se mi ascolti bene, io ti ascolto Santiago 5, Radio 3. Perfetto, anche io ti ascolto, adesso stasera ti ascoltavo, diciamo, siamo un po' di PRM, comunque ti ascolto, almeno la radio lo ascolto, bravo, hai capito, tutto lì. Bene. Ok, chi c'è altri? Giuseppe, io ero addormentato qui sul tavolo, non so altri chi c'è oltre a quelli che siamo. Ma c'era Franco, Sandro Produttore, Gianluca, poi c'era Gianni Doppio Ru e Gianluca. Ok, quindi già ce ne ho chiamato, ho rilasciato a Gianni, ma non mi sente? A me ha rilasciato, io ti ho sentito. Ma cosa stai usando? Un apparecchio nuovo? Ok, no, me l'ha regalato Angelo già. Angelo Paraghini me l'ha regalato, era nel corso, nel... nel magazzino, ma tra poco vado a guardare, poi c'era un macchio, un Innoiti sto usando, CP294, che ne ho anche un altro, hai capito? L'ho messo là, guarda, so quanto pieno di... l'ho pulito dopo un uovo, è come quello che ho io già, e così, no niente, mi sono addormentato, di colpo di sonno già, mi è venuto colpo di sonno, ero... sì, sentivo modulare, ma non... e l'ho preso, adesso un po' mi sono ripreso, e hai capito... la stanchezza è anche sempre va e vieni e poi ho accompagnato a Claudio a lezione stasera per la musica e quindi sono sempre ancora all'altro e sono crollato un po', ma adesso gira di nuovo, cioè mi riprendo, hai capito? Mi trattengo anche alle treno, il computer mi col portatile mi sto guardando i fumi di tazzoni, no? Mi metto le cuffie così, tanto per fare qualche cosa. Bene, Meda, sa, riprendi a te e Michelino. Sì, capo. Capo del Rogio, infatti stasera ho visto che poi eri impegnato e si è sparito e non ti ho più sentito. Va bene, avanti. Leoncino. Capo, è così, hai capito, caro Fra, come il discorso. Lui ha detto di quella questione che come se riusciva a entrare, che abbassava, toglieva il coso dell'Imo e altre cose. Voi abbiamo Valencia, è vero, poi quello è il discorso, è tanto poco da fare il discorso, c'è me. O le prendi in una maniera o te le prendi in un'altra. Tanto adesso fra un po' aumenta tutto quanto, è come risparmio in una maniera e le toglie per l'altra. Venga, venga. Ricordate una cosa, quando loro dicono che tolgono una cosa, ne aumentano due, ne aumentano. E quelli lì non ci devono perdere, se no come se lo fanno anche qui. Per carità. Sandro! Ehi, capa là, ehi, vabbè, comunque, ai fin dei conti, guarda, è una poltrona in pelle, talmente comoda che fa bene a tutti, capito? Quindi, logicamente, diciamo, ognuno mette di più di tutto, poi una volta che il posteriore, chiamiamolo posteriore, per non dire quant'altro è appoggiato con la poltrona lì, chi si è visto si è visto, ma che dire, non ci resta altro che poter aspettare che ci sia un miglioramento, che ci sia una svolta, che ci sia ripresa e quant'altro. Solo questo diciamo possiamo fare, almeno noi poveri immuni possiamo fare tutt'altro. Va bene, dai, ne approfitto perché devo fare una passeggiatina, così smattiamo un attimino un po' la carica e poi diciamo porto a passeggiare il mio grande fedele. Io lo chiamo grande fedele, dai, ok. Salutoni Gianni Capridone, salutoni Gianni Doppiorum, Franco, Leoncino e tutte le prossime, dai. Riprendi Gianni Doppiorum. Ciao Sandro, buona passeggiatina a te al tuo cagnolino. E comunque, vabbè dai, facciamo riprendere per i saluti e poi continuo il discorso. Avanti Franco Di Sorso. Capo, dai. Ciao Sandro, buon correttivo, la passeggiata con il tuo fedele e ce la ascoltiamo per le prossime. Avanti Sanci. Ecco. Il prego. Ciao Sa, buona passeggiatina e buon tutto, salutami Corea e un buon trabacco per domani, dai. Avanti Gianni Capri 2. Sì, perfetto, ciao Sandro, buon tutto, buon questi greca, oh, fedelissimo, anche loro hanno bisogno di uscire. C'è stato un break, non ci dilunghiamo, avanti il break. Sì, buonasera a tutti, Franco Spagliero, sono intanto per salutare e per augurarvi la buonanotte. Tra un primo e secondo tempo, giusto per un saluto. Ciao Gianni, Giuseppe, Sandro, Gianni Capri 2, insomma tutti quelli che sono qua sul canale 5. Buonanotte a tutti, microfono per te Capri 2 e alle prossime. Un saluto circolare a tutti, buonanotte. Ok, ciao Cla, buonasera. Hai buttato l'acqua santa anche tu. Non tanto che non ho guardato e l'ho preso a sonno un po', ero preso, ok. Mi sono messo con questa aggeggio un po', ma per stasera per farlo funzionare grazie a Remunino. Poi già ce li ho. Ok, di nuovo rilanciamo le luci, riprendi. Chi sa che ha mangiato il gruppo? Oh, niente, già no, sono preso proprio a sonno questi, forse ho anche lo stress, sempre andato giù. Ok, perfetto, allora ci sentiamo alle prossime, riprendi Luci. Ciao Claudio, buonasera, se sei andato a coricare, buon 144, dai. Avanti Franco, per Claudio Spaviero. Ehi, scappa. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Telebo 144, buon cuore chi per te. Ciao. Ciao Claudio, grazie per averci concesso questo saluto. Ciao a tutti, ciao a tutti. Vi sto ascoltando l'avvocato, ma metto guardando la partita, ragazzi. Sapete che sono sportivo e doverosamente sono entrato a salutarvi, dai. Alle prossime, vi auguro a tutti un buon proseguo di questo e buon fine serata. Ciao a tutti, microfono per non lo so chi tocca, vai tu Gianni, dai, che se piantiamo. Ma sempre a zillo. Avanti Franco, riprendi tu e poi fai girare, dai, poi facciamo girare per Capri 2 che ci deve dire cosa ha mangiato stasera. Benzino. Allora, oggi la palla di Claudio dell'anziano è rimbalzato, va. Avanti Capri 2, allora. Come mai questo sonno, così imponente? Già, forse anche quello. Maledetto Gianni, che abbiamo fatto stanotte e boom, per contentare a Claudio, hai capito? Anche quella la gestione già, che niente. Comunque già non ti contermina più un anno, di tre giorni sei più grande di me, e boom, e boom. ma sono più magrolino io adesso, perché sto mangiando di me. E anche io qualche chiletto l'ho preso. No, niente, già questa roba che ho espuglia l'altra volta era destinata per il primo dell'anno, però stasera ha detto me la prepari, ma qui a trovare roba, però forse anche quello già è proprio sa che non abbiamo mangiato altro pure. Ma comunque adesso mi sono ripreso tranquillo, ma papà ero proprio buttato sul coso, addormentato. Riprendi il mio sì. Purtroppo mangia cenare di notte pesante fa male alla digestione, alla cosa, e poi rimane sullo stomaco e non riesci a dormire. Invece bisogna mangiare leggeri e l'indomani cenarti tranquillo già. Parole sante. Però c'è un'altra cosa, quando si mangia il bocciotto, quando c'è un boccione con contenuto buono, vuol dire che fa venire la sonnolenza. Anche quello, però uno che è abituato a non berne di notte o di non berne di questa cosa, del vino o quella cosa è, si beve una bottiglia di acqua e sta tranquillo. Sì, ma non tutti hanno lo stesso carattere. Oggi fra ho visto il pane all'uva, sono andato, non è che ho visto il pane all'uva, ero anni che non ne mangiavo, era quando ero ragazzo, mi piaceva molto. Erano tre panini nella confezione, e tu mi ripeto. Beh, uno dopo l'altro me li sono mangiati, sono arrivato a casa e mia moglie, io ho preparato, ho già messo a macinare la carne di cavallo, non so che cosa, sono amici, perché io non mangio nulla oggi. Ti hai mangiato l'uvetta, quindi per te. Capri 2. Ma Gianni, Capri 2 dov'è? Avanti le oci. Sta facendo cicche. È andata a bagnarsi il petto, a digerire quello che ho mangiato stanotte. Ferrutino nella paravubita. Sì, vabbè, dai. Tu ricordate una cosa, quando... ricordate una cosa, quando il contenuto è buono, guarda, poi ci sono santi che lo fai. Sto scherzando, anche io qua. Sono di buona forchetta quando qua siamo da prima di Natale, ma niente, facendo pranzi e cose. Mia moglie ha detto basta adesso perché non li posso più con gamberoni, porcetta, agnello e questo e quell'altro. Alla fine ti data i sallucci, basta, giusto, non organizzare più. Gianni, lascia perdere. Per le volte che salgo una bilancia mi spavento. Io cosa devo dire? Già. Gioco grosso, non so se mi conosci tu fra. No, no, negativo, non ti conosco. Però, no, io sono alto e so bene come fisco, dai. C'ho pancia e basta. Quanti chili pesi? 90. 92. Ti lamenti? Sono buzzè più 5 io. No, no, non mi lamento più. Già. Ma sai che la nostra dottoressa ha ordinato quelle che prendono tutte le pastiglie? Quale? Viagra? No, quella per il coso, per il colesterolo. Ma io per il colesterolo non ho preso, io ho preso Triatec per la pressione però. Io del coso, quello, a parte per la pressione, quella per la glicemia, quella è l'altra, quella che si prende la notte, dopo cena. Ah no, io le prendo solo per il diabete e per il coso, non ne prendo altro. Qualche volta il Malox quando mangio troppo la notte, che ha ragione di più, si mangia le gigli. Tante volte c'è roba buona e mi frega. Mi hanno ordinato quelle pastiglie che si prendono la notte, dopo cena, e l'altra per il coso, per la pressione. Ma che per la glicemia c'è le prime? E allora? Tu dici diabete? No, ma mi ha ordinato queste pastiglie piccoline per il coso, per la notte, dopo cena, mi ha detto per il coso, per non formarsi nel coso del colesterolo, ho capito? Ah, per non formarsi così nel sangue. No, saranno per non coagularsi il sangue e cosa. Vabbè. Come si chiamano queste pastiglie, te lo ricordo? Aspetta, prendo la scatola e te lo dico. Ma sarà il Puma di Noia che l'ha presentato per quella coagulazione, non è che quella, no? Come di... Quando prendi quella pastiglia lì devi stare molto attento a non prendere i colpi, perché se no il colpo è mattoma ed è brutto. Infatti, a Papo glielo riguardiamo, perché lo siamo avvertito, attenzione, se si fa male lo vedi qui immediatamente, perché l'altra volta già aveva la fesseria e per un po' che ha portato il sanguato, la cazzata di un corno, la ferita del naso, lì che immediatamente se ne è accorto mio figlio perché l'ha sentito andando e tornando, ma a tempo hanno fatto da quella partita del Cumadi. Sì, perché di cui fa molto il sangue per non coagularsi, quindi cosa succede? Che tu quando ti fai male perdi un po' di sangue, anche più liquido, capito? Lo zio di mia moglie non ci ha telefonato alle 4 di mattina, l'altra mattina ci ha fatto prendere uno spavento, sto male, venite a prendermi, lui vive da solo in campagna. E cosa è successo? Che la sera c'era un ferro che lo faceva sotto in champagne in campagna, a 82 anni si è buttato con una mazza di chi si manni, lampanni che si ferro, o ha pigiato, cosa voglia fare. Cosa è successo? Che gli altri contraccolpo si è preso la gamba, la sera sembrava nulla, e poi la notte non riusciva a dormire dai dolori fortissimi che aveva, cazzo di alzo il pantalone, ui, cosa va via che sangue. Un coagulo di sangue enorme, tutta buscitti, come quando uno si brucia. L'hanno portato a pronto soccorso e l'hanno dovuto subito aprire per togliere di questo sangue coagulato. Pronto? Così è già, io a Papo lo stesso. Prima c'era mamma e lo manteneva sotto controllo. Mi ha detto che una serra in gara in cortile, ero messo a posto, però perché io scuro sto lavorando, ma ogni tanto lo apposto per lo parlo anche male, lui non si vuole arrendere già, adesso ne ha compiuto 79, vabbè gliel'hai visto, però già ti è imbottito a pastiglie, capito? E come anche tu questa roba, se si fa male, che c'è qualche cosa che non ci siamo, sono cavoli amari, hai capito? Mia sorella abita dall'altro paese, non c'è qui. E quindi ha detto mio figlio, ma io ho fatto il blocco che adesso mi sfugge al controllo, fa sempre, non fa mai fermo, è sempre con fermo nel cortile, cosa gliene frega, c'è una buona pensione, lui c'è la pensione di me, cosa te ne frega di piantare due corsi di lattura, così è fatto già. Pronto, avanti. Buonasera. Giampi c'è qua? No, non c'è Giampi. Con chi abbiamo l'onore di parlare? Buonasera. Buonasera, sono io, Giovanni. Oh, Giovanni, ciao. Non ti stavo riconoscendo. KK. No, non c'è Giampi. Ah, non per figura. No, perché credevo fosse su, ma non c'era. Buonasera, Capri. Io sto seguendo il piccolo Lord comunque. Buonasera, Giova, salutori. E capisci? Io, madre, se ti stai riferendo all'amico nostro, stasera stavo parlando io. E, niente, ma hai capito, io non sto seguendo nulla. Non so se ti riferisci al piccolo Lord, o qualche altra cosa. Sto qui, sono seduto, ero addormentato poco fa qui sul tavolo. E poi i modulatori mi hanno risvegliato, ma non so se mi è passato il sonno. Bene, me la vedi un golfe, giù e riprendi. Che cappa. Allora, si chiamano già Sismatina. No, non le conosco, sicuramente comunque per il colesterolo, per non formarsi grassi nel sangue, là. Ma sempre al latte sì, la sera. Al latte? Beh. No, il latte lo mangio solo la mattina, basta. E la sera se ce l'hanno normalmente? Normalmente, normale, capito, normale. E oggi, vabbè, stanotte, c'era la differenza della... ha fatto il coso della... tipo la cerciata, là, capito? E me ne manca un po' con i ceci e il coso del pane, quello grosso, quello, il pane di uso. E ne manca un piatto e l'ho fatto fuori stanotte. Comunque è solo quello mangiato, capito? Quindi stanotte sei di concerto, Giuseppe. Sì, lascia perdere, ma ci sono le coperte che stanno dicendo, e beh, non la smetti, no? Luca già di fare su cui si è mandicato. È pesante quella roba, mangia è buona. A me piace la farfalla, ho fatto lo stesso. E niente, diciamo che c'era anche Gianluca di Porto Zavallo. Gianluca non riprende, dai, riprendo io già, e mollo tutto, domani mattina alle 4:30 ce ne dobbiamo andare a lavorare. Ciao Gianni, ciao Gianluca, sei all'ascolto. Ciao Leoncino, poi c'è Donato KP2 e l'amico Giovanni Littiri che saluto, che non avevo occasione di salutare prima. Avanti Giovanni. Sì, è positivo. Saluto a me che sto facendo dalla ruota. No, niente, io appunto vado a seguire il piccolo Lord, quindi vi lascio. Qui proseguite pure, KP2 prosegui pure. Niente, poi più tardi mi sentirò con Giampi. Va bene, buon proseguimento a tutti. Riprendi già. Ehi, allora, ciao. Ci sentiamo già. Buona veduta. Allora, avanti KP2. Sì, ciao Giova, buona visione, hai capito? Ricordati a fine mese che poi posto in prima fila sempre, che sono dai ottobre, siamo amici. Sto scherzando. Ciao Giova, capito? Già, non ti devo quasi talotte a Giuseppe e su retro, sì. Ecco perché Giuseppe c'ha sempre le lenzuola rigonfiate. La massa per l'Italia. Ciao Gianni, KP2. Yeah, a me mi ha pindacciato l'altra sera, attorno alla barracuda, ha burdiato la fene, ti dico già, sento un po' volte mi sono alzato, bombe sembravano già. E la fene fa quell'effetto, anche a me così, come ti davano devo correre in bagno. Mi tenta, ma so, però ci mettiamo un po' davvero a mangiare le volate. E ti ho detto, tanto non ci voleva per contentare a Claudio, ma diciamo sazia, hai capito, poi gli ingredienti, hai capito, no? Già quando la mangio a pranzo la faccio un po', e figurati, la digerire è pesante, e non abbiamo toccato altro. Bere niente, ho comprato l'acqua di quella naturale, perché manco frizzante ne bevo, e vino nulla stasera, perché anche non ce n'è, abbiamo finito. e così, però diciamo che crede come che mi abbia mangiato chissà che cosa, infatti come sono dipende da quello già, vabbè io non mi controllo mai con analisi, con però diciamo so regolarmi anche, e per tornare al discorso delle pastiglie della pressione, ogni tanto già le prendo anche io, no? Me la tengo sotto controllo quando vedo, non è che la prendo ogni giorno la pastiglia, però se vedo per esempio qualche volta per due o tre giorni prendo queste pastiglie da 160, hai capito, e poi me la ritorno, hai capito, però mi succede solo già quando faccio abuso con roba con sale tipo ife e queste cose piccanti, e allora mi sale, non vi noto, però la minima va fuori della norma. No, ma io soffrivo anche di ipertensione dovuta allo stress, quindi la sto prendendo per quello, non tanto per regolarizzare la pressione, ma questa ipertensione che non ci dovrebbe essere, no? E quando prendo la pastiglia tranquillo, se non ne prendo magari se sono stressato comincia a palpitarmi il cuore, se lo sento anche nell'orecchio quando sono coricato, boom boom boom, proprio una cosa allucinante. Quindi devo prendere sempre, poi mi ha detto che sono salvavita, me l'ha detto anche il medico fiscale quando è venuto a visitarmi, e mi ha detto prenda sempre queste pastiglie perché invece di dirmi di tornare al lavoro mi voleva dare altri giorni. Come dicevo già, adesso mia moglie mi stava chiedendo come lei è imbottita di farmaci, ho tagliato per cosa, penso che come si chiama soggia, che marca sono le pastiglie che prendi? Quali? La pressione Lobivon e Triatec. E sentite, quello che prendo io sono all stress, hai capito, però mi fanno, come si chiama, ogni volta che prendo queste pastiglie già mi sento una, tipo un attacco cardia nei giorni che prendo queste pastiglie, non so se è normale oppure sono le pastiglie che non l'organismo non le accetta forse. E dovresti dire al dottore questo qua, perché se ti crea attacchi cardiaci alla pastiglia vuol dire che non fa bene, perché ti aumenta la pressione con l'attacchi cardiaci. Non c'è da scherzare già di queste cose, fatti controllare, perché non si scherza, non ti voglio pinnacciare, ma lo sai che il padrino di mia moglie per quel colpo di mazza che ci ha dato per poco non gli tagliano la gamba perché si è trascurato, perché lui se l'ha fatto la mattina per non disturbarci, non ci ha detto nulla e poi ci ha telefonato alle 4 di mattina e ci ha disturbato il dolce. Ah, Sant'Ono, ma dopo siamo anche noi già che, vabbè, io diciamo che tanto mi capita sempre quando mangio queste cose piccanti, a me mi piacciono questi antipastini, mi stanno sbaglio, poi soprattutto già io a pranzo sono di notte, mi viene questi cosi, molte volte che sto a fare la spesa, hai capito, ho dal macellaio, io che piglio con i sangue, perché non ce la mangiamo tutta con Claudio, ma Claudio è giovane, hai capito? Niente, poi quelli mi piacciono, quelli lì per tostare, sono queste cose che è se che già mano di Dio, con la pressione. Riprendi Giuseppe. K, eia, ti volevo chiedere una cosa Gianni, capri due. Stasera stavo sentendo quella questione dei baracchini. Ha detto che c'è un baracchino che stai dando. Sì, io ne stavo dando uno, un Midland, Gianni già lo conosce, a 40 canali con le bande, l'avevo comprato, hai capito? No, quello lì lo posso, perché io colleziono 23 canali, 40 ne ho uno bello, quello ha regalato Claudio, quello è degli anni 70, io di solito, no, il Midland così tanto! Hai capito, giusto, la tavola c'era Antonello, stava incontrando gente a Ossi a entrare, ero così, ma tanto giusto così l'ho detto, non è che proprio sono intenzionato a prenderlo, però a chi interessa? Potrebbe interessare anche a me, però perché diciamo che lo dovrei piazzare in barca di mio fratello, capito? La barca? C'è una barca bella, c'ha, hai capito, mi serve un baracchino, 40 canali, giusto per modulare, capito? Ma così la dire era proprio fatta per piazzare le barche, perché c'ha il microfono bianco, io questo me l'ha venduto coso questo, questa è la principe, me l'ha comprato così giù, però a me non mi piacciono i baracchini così, tranne lui che ci temo moltissimo a quei, e io uso sempre quando sono baracchini 23, capito? Poi c'ho quello della macchina, il Midland alla 78, basta, no? Non ne ho molti a 40 canali, lo potrei anche dare, no? Non c'è problema, no? Quello lì proprio non mi interessa, hai capito? Quando non mi toccano le ruote, a me, che quello è il più bel regalo che ho ricevuto, perché già ne te lo conosce, hai capito? Gli altri 40 canali, io ho gli apparati grandi, hai capito? Se voglio, poi il canale, mi duriamo sempre qui. Già ne parliamo comunque, Giuseppe. Ok, riprendi già. Volevo sapere se c'era Gianluca ancora. Gianluca? No, a chi tocca? Avanti. Diciamo che siamo rimasti solo noi tre. Hai capito già, per poco non li amputano la gamba, me lo sai. Ah, per scherzare, già sotto sono cose delicate, sono. Me ne ho visto quando c'era Babbo, sono andato e non mi hanno detto nulla a me per non spaventarmi, perché poi c'è quel servizio. Poi quando ho finito il servizio mi ha chiamato mio figlio, ecco qua, sono al pronto soccorso da. Cosa è successo? Me ne ero accorto di nulla, io ho preso la scuola, butto lì, non mi ero accorto di nulla, già che mancava manco la macchina da dentro. Ha detto così nonno, ha detto, se già ne hanno fatto un sacco di trasfusioni, di quarte, di roba, ero. Mi è capito un attimo, nel frattempo che ero lì seduto e la gente entrava di ogni minuto ne portavano uno, già è un attimo, se si male è un attimo, hai capito, però bisogna anche riguardarsi, io ripeto, ci abbiamo già una certa età, hai capito, siamo già che dobbiamo essere tenuti sotto controllo per varie cose, e molte volte guardo anche questi programmi televisivi, ne parlo anche della pressione, di queste belle cose, però molte volte già anche io sono un nemico di fare analisi e queste cose qui, però so che c'è la macchina della pressione, qui ogni tanto me la misuro e poi vedere il colesterolo già. Mia moglie c'ha il colesterolo altissimo e non fa fusine già. Adesso questo qui non le voleva ordinare a figlie perché voleva il coso dallo specialista dove è andata, un sacco di giri. Comunque ti sto dicendo che il colesterolo è anche una brutta cosa. E può essere anche l'ereditario il colesterolo, io avevo un amico che era magrissimo eppure il colesterolo va sempre alto. E comunque, cosa ti volevo dire già? Non dovesse mai succedere, ma se dovesse avere qualche mattoma portatelo subito, perché con quelle pastiglie lì è un casino perché lui ha provato a mettersi pomata, poi si è messo il ghiaccio per non gonfiarsi, c'era la gamba, se tu la vedevi quanto era gonfia ti spaventavi, gonfia tutta quanta rossa di sangue al testo dentro, ha dovuto aprire subito, oi oi. E sta andando tutto a controllo, perché non le è passato del tutto, c'è questa mattoma enorme, sono molto, quando ci prendi cumadine così, perché ti dico fa il sangue, quindi la minima cosa, il minimo colpo che prendi subito, lì non ha preso un minimo colpo, lì l'ha preso bello grosso perché era una mazza. Con una mazzetta mi si è già dato il contraccolpo e si è preso la gamba. E già, perché dovevo fare fermi, anche io, adesso già in viaggio ho fatto pure le moto, alcune quelle che erano in mezzo, io andavo sempre lì, anche io sempre vaghe e niente, e l'ho tutto quanto pulito, rimesso in ordine, non mi tocco più, un attimo, come si chiama, basta, la posso toccare, a me non penso fare qualcosa, certo per casa, qualche lavoro, una cosa indispensabile, ma però vai a buttare, stavo, sta sempre non facendo nel cortile, io non ci sono perché non lo vedo, perché il cortile è oltre lì da casa, e anche quando scendo molte volte a prendermi l'alfa, a uscire, capito, non lo vedo, se sta sempre lì, non sta mai fermo, già non so io lo metto alle buone, io sono le cattive, però cosa faccio? Me lo leggo addosso, me lo leggo, non lo so, guardi lui. Perché sono persone che sono state abituate sempre a stare in movimento e continuano a esserlo, così era mio padre sino a 82 anni ha lavorato, capito? E poi la cartoleria l'ha chiusa a 82 anni, ma perché gli ha detto il medico ha detto di non tornarci più, che era troppo grande, che doveva mollare anche la bicicletta, perché lui andava in bicicletta, doveva mollare anche la bicicletta, lui gli ha tagliato un pezzo di cuore quando gli ha detto così. Sì, perché solo lui ha detto a me che io stacco montagne, che di buona lo so, lui è ferrovia, lui diciamo già era passato proprio tecnico di controllo, però mi ha pigliavano rotaie, traverse, e capito, lavorato sempre con l'altezza, e capito, perché non è già detta una cosa, c'era anche la responsabilità di quello che facevano, anche quando le passaggi a livello, trafficate, la testa sua stava sempre, però lui di quello che aveva e che faceva, stava molto movimento, anche la mattina, adesso abbiamo appiedato di macchina. Ho capito, perché l'altro là facevo io la Mercedes e la Femi, quindi è appiedato, anzi si voleva comprare una macchinetta e l'abbiamo dissuaso, però andava a camminare e scendeva giù a Campomena dove c'è quello che si è mai passato, sulla strada larga che fa lì la gente, anche 3 o 4 km si faceva al giorno a piedi, e di quello sì già, però i disturbi ce li ha, non è più, e siamo a 79 anni, i disturbi ce li ha, e deve stare attento perché i farmaci li prende, va a controllo, a questo centro di coagulazione a Sassari, quindi bisogna stare, capito, seguire le prescrizioni del medico. Ok, perfetto. Franco, mi senti? Dici che rimetto in macchina, non ti devo rimettere perché ti sento basso, l'ho abbassata la radio, perché qui c'è un disturbo. Comunque ti rimetto il cambio, vai Soso. Io non dico che ce n'è andato là. Quell'altro non me ne ho accorto già, non me ne ho accorto già, perché l'ho dovuto abbassare, capito, perché per non disturbare. Ok, quindi Giuseppe, riprendi. Sì, io riprendo per salutarvi, vi auguro la buonanotte e una buona giornata per domani, un buon trabacco per domani, e salutando tutti quanti il Corea e tutto quanto, dai. Ciao, buonanotte, ciao Gianni W, ci sentiamo, buonanotte a tutti. Ciao Giuseppe, buonanotte, dai, ci sentiamo, avanti capito. Sì, perfetto, Giuseppe, salutoni e buon tubo per domani, è quello che vuoi fare. Per l'apparato fammi sapere, capito già. Vediamo di metterci d'accordo, hai capito? È così. Intanto se prendo quello compro un 23 canali, hai capito? Tutto lì. Così ho detto, quando vi ho fatto così Antonello, non è che lo so proprio, però il Midland proprio, l'avevo comprato giusto per andare, mi sembra che ci sia anche tu già della volta, da Stefano, ho usato poche volte, avevo sempre con questi a 23, hai capito, no, però è andato voi che gli altri, quelli lì, quelli non li do, ma quel Midland, hai capito, manco mai lo usavo, ora sempre una parte, se finisco a usare questo. Ok, poi già c'era altro un tratto, questa stasera sta facendo già, come si chiama qui il re, giusto per farlo funzionare, perché l'ho portato oggi qui l'ho pulito tutto quanto, però domani anche lui fa come i burattini, va nel retro bottega di prendi. Ma che cos'è una stazione base? In Inuit, ne ho anche un altro, nuovo, nuovo, è quella, che è quella, che l'altro che c'ho io è nuovo, il 294, e mio figlio mi ha detto, ma uno ha detto, adesso me lo dai, tanto danno, oltre a questo ha detto, è in coppia con l'altro, tipo le gemelle Kessler, viaggia. Che fissato, ma ha detto che non gli interessa nulla, ci ho parlato io con tuo figlio, con Claudio, l'altro giorno in chat, e mi ha detto che non gliene frega nulla degli apparati, che gli interessa, non gli piace manco guardare il televisore. Ma lui già, te l'ho detto, mi ha messo i giumi in chat, e ha letto 3 se ne sale, poi alle 3 domani si alza, o alle 2 e mezza, quando proprio. No, a me non interessano i miei figli, però ma, non ti pagano, però forse quando ci sono io vogliono che io ce li abbia. Ma, oppure un momento va sempre quella, quando muoio li lascio, venite in Grecia con i film di Buddy Spencer, non so, avete visto, lo chiamano Trinità, mi rompete le ossa, quello che è il marito detto, si riprende. No, no, non sono interessati già, sul momento ho provato tanto forte, magari sto pensando un domani già, che sono qualche anno figli, magari qualche si appassioneranno. E caro, non sai come sono, molte volte il padre di una parola piace e piace ai figli, e già sono qui già. Non mi chiedo lei a educare, però quanto sono in vita me li voglio godere. Vabbè, fai bene. Ok, perfetto, tanto lo darà ancora, come fa un metodo in questo apparato, io poi lì sono ce l'ho a cenare, ho messo tutta una... Guarda, lo compito che ci avevo il coso sull'edificio apolegliana, quello schema, ma però c'è un'altra roba che io ho preso degli schemi del 440, avevo preso, e sicuramente c'erano degli apparati, c'è questo anche quello. Adesso non mi ricordo, ma con la sigla mi ha detto, tanto me lo porto al comodino, il portatile, e così cerco a vedere lo scarico in penna se lo trovo. Devo guardare nel core, i documenti, il sito dove ho caricato. E così già. Tu hai visto l'apparato di Antonello? Negativo. Me l'ha accennato, ma non l'ho visto. Bell'apparato, no, io pensavo che aveva pigliato 50, 144, 400, ma con questa moto sono leccato, no, ha detto ce l'ha perché lei sente, allora c'è anche quello. Ha detto che ci vogliono questi finali, ha detto non ti preoccupare, tanto lei ha accaparrato, poi a fargli lo stadio finale, già in un secondo tempo se lo fa riparare, sempre diciamo un buon capitale, un apparecchio del genere, non è un baracchino, sempre un capitale come 440, hai capito, non con le pelle, hai capito, un domani poi si cambiano anche il valore, non lo so, come quelli per i primi apparati HF da amatori li fanno pagare, sono come si chiama, una cosa vale l'altra, hai capito? Mi ha fatto bene, ancora è contento, almeno a sentire già sente, perché l'espressione già va. Riprende un ICO, mi sembra che... Sì, un ICO, ma non ne frega nulla di aggiustarlo, ha detto che gli va bene così perché lo usa per ascolto e buco. Già va bene, contento lui, contenti tutti. Boh, già, iniziamo a girare, oh, io invece un quarto sono, ragazzi miei. Anche io già taglio, chiudo, e ci sentiamo domani, per domani mi devo alzare, mi sto trattenendo già, visto qui non le lascio da quando ero in vacanza, invece delle 6 mi sto alzando 6 e mezza, 7 meno 20, devo essere di nuovo preciso, hai capito? E niente. E poi, diciamo, quando c'è un po' di cose libere sono sempre alla radio, però prima è adesso devo imbiancare anche il garage. Un po', ho pagato l'ero da pico, io ho pigliato la vernice, ma quello in mattinata, un colpo di... A mia moglie piace tanto, mi ha pigliato un colpo di mano uno, un colpo di mano l'altro, hai capito, si fa. D'accordo già, per il momento ti saluto, ti auguro una buona notte, un salutone al Correa, un salutone anche agli amici che sono in ascolto, io passo in quel RTSK perché c'è... è arrivata allora come diceva la buona anima di Totra, bibbi, ha detto stop, ok, a te ancora ti ascolto e poi chiudo. E allora ti volevo chiedere solo che fine avevano fatto le moto, se le vendite. Sì, ho dato via, a malincuore già, ho dato via il Suzuki 380, il Ducati 350 Marchi 3, e l'altra, ce ne sono rimasto, il Ducati 98 di Babbo, la Vespa 50, lo scooter LSR, perché la 1 l'avevo appunto l'anno scorso, 125, e il Fifiti ce l'ho fatto scendere a Babbo, quindi ho fatto una bella pulizia già, e le attrezzature speciali, ho dato della Ducati, della Suzuki e tutti i cambi che c'erano della Ducati, che non mi dà più nulla di quei dei monoalbero e niente. una vite, ero attaccato col secondo, quindi se non c'è più la moto non è stato più uno degli atleti, anche a prezzo giusto per dire che me ne sono liberato. Non ci vado più già, capito, non ne ho più voglia, e qualche giro col Vespino mi faccio d'estate, così non se ne ha più voglia già. Largo ai collezionisti, questi qui sono collezionisti, ne hanno tante, e capito, io hanno il posto a tenerle, io il posto già è un buco, mi serve per altre cose garage. D'accordo già, da domani se coincide ti rimetto il cambio, vai. Ciao, ciao, già ci sentiamo, va. E vabbè, c'era una bella manifestazione comunque domenica in piazza, tutti i motociclisti d'epoca, c'erano tutti i tipi di moto. Io lo vado a scendere lì, infatti ci sono anche un piedi, perché detto che io lo so che fanno già, non sono scendo, hai capito, niente, hai capito, stavo fino di, sono rinvenuti a partire di sera in garage, me l'hanno detto, anche prima, perché prima già partecipavo, prima c'erano 20 anni di meno c'erano, hai capito, non ho più voglia di stare, se no una bella moto l'avrei avuta, che non ho... Non è un buglio, davvero, mi devono credere. Sono sempre appassionato secondo quello che vuoi, però già... Loro fanno anche in corsi, cambiano questa moto d'epoca, vanno nei girano, però non va proprio. Già, facciamo fare a loro. Di nuovo già, buone cose, a domani, ciao. Ciao, ciao, già. C'era un Guzzi con le marce a mano. Guzzi con le chiamo il bustie, come il serbatoio. Quelli che hanno, volano come, cosa ti posso dire, come il coso, come presente quelle affettatrici antiche. Ma quelle non sono a mano le marce, sono a pedale, Gianni. L'airone sarà stato, il 250, però ho fatto il corso di motociclista quando ero nell'arma, sia con quelle anche con Falcone 500, che è più precisa, e poi col V7. Sì, lei quindi qui mi fa l'airone. Hai capito, sono molto belle, io ne potrei anche averli quelle volte, però basta, sono dipendenti già, e anche tu sei lì, capito, la passione è bella, però non ne ho tempo, d'accordo già, di nuovo buone cose, chiudo adesso, non riprendo più. Buonanotte, comunque era una marcia a mano, l'ho vista anche Antonello, ciao ciao.